Benvenuti, benvenuti tutti quanti allo studio. Io non so assolutamente che dire, perché come Marco sa bene, sono in un periodo così di particolare confusione, che poi in realtà è il mio stato normale, quindi diciamo non so proprio cosa dire, quindi non dico nulla. Se non benvenuti, se non grazie a Marco e grazie a tutti voi di essere qui. Una posizione meravigliosamente asemantica questa, Assolutamente. sembra perfetta, senza totalmente Non ho positiva. nulla da dire, non so cosa dire, però vorrei dirlo in qualche modo, quindi continuo a parlare inutilmente. Invece grazie dell'ospitalità oggi e ieri, perché poi ieri appunto questo incontro viene da quello di ieri. Io ho distribuito tra noi, e poi chi volesse, ovviamente la mia è a disposizione per il pubblico anche, fatto una cartellina in cui ho semplicemente faccio un sommario, poi il discorso in realtà poi prende le mosse che vorremmo dargli a prescindere completamente da questo, in cui si trovano in senso cronologico inverso una serie di interventi. Uno è uscito del volume Concreta 1, cura di Sebastiano Triuzzi, che è un testo che sta in rete, pubblicato dalla rivista e casa editrice Diacritica, che si occupa sostanzialmente di letteratura, di italianistica, di filologia, e però ha dato molta attenzione a un incontro che è stato organizzato all'Accademia d'Ungheria nell'aprile e maggio scorsi, in cui a cura di Giuseppe Carrera, di Sebastiano Triuzzi e di István Puskás, in cui si raccoglievano e in mostra e con una serie anche di conferenze, di esposizioni, materiali di scrittura di verbovisiva concreta, e questo, di cui il titolo Concreta, e asemantica. E tra gli altri mi era stato chiesto un intervento che io ho flesso in maniera un po' anche personale, parlando anche del lavoro mio personale, e che è il primo che trovate. Il secondo è un intervento invece di Mariangela Guatteri. Mariangela Guatteri è artista e visiva e scrittrice, tra l'altro una delle autrici pubblicate da Icona Libera, quindi si trova, anzi la prima autrice pubblicata nel programma di Icona Libera, quindi sul versante diciamo di scrittura di ricerca, scrittura lineare, ed è anche autrice di materiali glitch e asemici. E questo saggio suo è stato scritto da pochissimo, si intitola Tassonomia di un segno dissidente, e il suo contributo a questa serata, perché io ho invitato anche lei. Le altre due cose sono semplicemente due articoli, un articolo mio e un'autoprefazione, un libretto che trovate tra l'altro lì, che è appunto il primo come articolo da una specie di quadro del Novecento, non soltanto limitato ai nostri anni più recenti, ma poi a un percorso novecentesco che parte, ne parlavamo poco fa con Andrea Tomasini da Rémy Chaud, e il secondo invece la prefazione, postfazione, insomma comunque la nota critica che accompagna un mio libretto di sibille asemantiche, con un omaggio in particolare a Emilio Villa, che il cui nome ieri ricorreva. Intanto presento tutti noi, perché mi sembra giusto. Innanzitutto Alberto, l'amico che ci ospita e che è particolarmente interessato appunto a questa nostra serie di discussioni, e Silvia Bordini, Andrea Tomasini, Fabrizio Rossi, Giuseppe Carrera, io sono Marco Giovenale, Laura Cingolani, Fabio La Piana. E poi ci sarà anche quella sedia vuota, perché purtroppo si scusa ci raggiungere con qualche minuto di ritardo, Damiano Beni. Chi alza la mano per iniziare? Giuseppe, che ha parlato già ieri, tra Sì, l'altro. infatti così almeno chiudo. Inizierei con un omaggio ad Alberto D'Amico, cioè sul suo inizio. Sì, io ho declinato l'invito immaginando che ognuno di noi portasse un frammento, per cui ho immaginato due frammenti riguardo alle disfunzioni della lingua. Torniamo un po' a un tema di ieri. E in particolare, durante le giornate della mostra Evento Concreta, è stato ospite Luc Benazé, che devo dire ci ha particolarmente colpito. Perché? Perché porta alle estreme conseguenze un tema che secondo me è un tema legato all'oralità, ma anche alla scrittura, scrittura e lettura, che attraversa tutta la seconda parte del Novecento, e cioè il tartagliare, l'inceppare. Il tema credo che debba essere ricondotto in una linea sotterranea all'elettrismo, per cui i gargarismi, la riduzione di tutta la potenza della parola e del logos alla lettera, il letterismo porta a una forma di fortissima balbuzia, una straordinaria balbuzia che diventa un segno dei tempi, cioè della non adeguatezza ormai di nessuna lingua al tempo. Dico, questa è una linea sotterranea, perché? Perché ovviamente il letterismo non ha avuto un riscontro, pensiamo nel panorama italiano, ma direi anche internazionale, se non fosse uno straordinario documento, e cioè Orson Welles che intervista i tristi, che sono forse il momento di maggiore successo. E ovviamente i lettristi in quel caso rispondevano alle domande di Orson Welles per lettere gorgogliate e tartagliate. Poi io penso a una linea invece forte, più importante, che carsicamente attraversa gli anni 70-80 e comincia a esplodere nella poesia, che è la grande lezione dell'ultimo genio mortale, cioè quello di Satura, Diario dei quattro anni, ma in particolare da Satura in poi, in cui Montale afferma che forse una delle cose più irritanti, e dunque io in questo momento ne faccio pienamente parte, riguarda coloro che parlano sciolto, hanno capacità di argomentazione, raffinatezze, sfumature, nuance, abbondanza di vocabolario, idee sempre a portata di mano, capacità di fare citazioni e richiami. Sono non solo presuntuosi, ma sono eboriosi, ma hanno l'assenza di silenzi, di mancanze, di distrazioni. È interessante che Lacan, nell'esercitarsi nei suoi seminari, cioè facendo delle sorte di preparazione per come parlare, avesse individuato in lui un difetto, quello di non fare pause di silenzio, cioè di non creare tra un'affermazione e l'altra, una parola e un'altra, un vortice di silenzio che diventava un inghiottitoio della parola da cui doveva scaturire il silenzio. Considerando che lui in realtà ne prende consapevolezza da una sonata, la 960 di Schubert, che inizia con un silenzio, nota, silenzio, sembra finita, di nuovo silenzio, e uno diceva, ma come inizi una composizione dal silenzio? Anzi, direi che questa è l'ultima sonata delle sonate del pianoforte di Schubert, che lui sentì in una famosissima esecuzione di Richter, Stratov Richter, in cui venne colpito dal fatto che il pianista sembrava che gestisse i silenzi e non le note e non la parte musicale. Dunque dice, intanto c'è una famosissima sua seminario che inizia con quattro parole che lui tartaglia, cioè che pronuncia tartagliando con il silenzio. Dunque l'inceppare, il tartagliare, il non riuscire ad avere più quella sorta di falsità, se vogliamo, di sicumera che è la lingua. Allora, tra il lettrismo, il tartagliamento, volevo farvi sentire, perché è stato inserito un pezzetto di Luc Benazet sul sito GAM, non abbiamo qui la registrazione concreta. Allora, credo di aver dato l'idea, anche se poi qui è più elaborato perché ci sono sovrapposizioni di voci, mentre quando lui lesse a concreto. Greta era da solo che leggeva con tutti questi tartagliamenti, faceva veramente impressione. Perché? Perché porta a compimento, secondo me, due elementi: questo inceppare continuo, e quando noi diciamo, l'abbiamo sperimentato attraverso tutta la nostra formazione con il telefono e il telefonino, non c'è rete, non ti sento bene, si mangiano le parole, cioè la incomunicabilità o l'inceppamento della comunicazione. In un luogo, cioè in un luogo di comunicazione che è ormai il mondo, cioè dove tutto si trasmette, non riusciamo a essere sempre aggiornati, qui avete una sorta di implosione della comunicazione che lui chiama distrazione, questo brano si chiama distrazione, in cui l'abbondanza di lettere porta a un inceppamento continuo che rimette in discussione la fluidità del discorso. In realtà, e termino questo primo appunto, quello che mi ha colpito è come la grande tradizione dell'arte retorica, che ha attraversato dal mondo greco al mondo latino, al mondo medievale, al mondo rinascimentale, cioè la formazione del discorso, il fatto che quello che caratterizza la nostra realtà, identità intellettuale, è quella di saper parlare fluidamente, avere ricchezza di vocabolario, quello che stavo dicendo prima facendo il verso a me stesso, invece ha la massima espressione di poeticità e di forza oggi in retori, persone che calibrano continuamente, come se fosse una vera e propria nuova retorica, l'inceppamento, il tartagliamento, il silenzio, l'afonia, l'elemento quasi asemico come elemento medico, cioè disturbo, ecco, un disturbo del linguaggio. Un disturbo del linguaggio credo che debba essere il punto ormai di partenza per elaborare un qualsiasi discorso. Pensiamo ad esempio sul fatto di correggere le mail, correggere le nostre comunicazioni. Io appartengo a quella generazione, soprattutto con molti colleghi, cioè coetanei, che mi dicevano: ah, io quando mando un messaggio deve essere corretto con punto virgola. Ebbene, io sono, lo confesso, sono arrivato al punto che deve essere sbracato al massimo, una sorta di imprecisione continua, non ordine, che mi mette in un mondo, devo dire, straordinario. E sono un insegnante di lettere, per cui immaginatevi con quanta fatica devo superare questa indisciplina, che trovo veramente affascinante, e dunque tutte le correzioni, le cancellature, gli sbagli di battitura, gli errori, le intermittenze, le cattive intermittenze, creano che cosa? Uno straordinario mondo di insicurezza, una affermazione di insicurezza, che credo che sia uno dei tasselli che io volevo mettere sulle scritture, no? Illegibili, illegittime, sugli errori, eccetera. Immagino che il problema possa porre un appassionato di tipografia e di libri un discorso del genere, e cioè che a un certo punto l'errore diventa storia interna di qualsiasi comunicazione, cioè la comunicazione non può che contemplare e trascinare errori. Cose belle del linguaggio è proprio questo, che permette di la comprensione anche in presenza di errori. Quindi laddove un linguaggio scientifico, numerico, eccetera, se c'è un errore non si procede, non si va avanti, invece noi se sbagliamo possiamo non solo essere compresi, ma essere compresi meglio. Quindi l'errore, secondo me, aiuta la comprensione, perché crea quella zona d'ombra in cui tutti noi possiamo in qualche modo ritrovarci, un po' l'ambiguità semantica del linguaggio. Quindi laddove tu non sei sicuro che quella parola voglia dire esattamente quella cosa lì io do una chance all'interlocutore di comprendermi, e assumo io una chance di comprenderlo, perché sappiamo che non c'è una chiarezza identificativa di una parola con un ente qualunque esso sia. E quindi sono un grande fan dell'errore e dell'orrore. Senza contare che abbiamo tutti questa esperienza dell'inversione, no? Per lapsus o per qualsiasi cosa, nella nostra scrittura, poi passata alla tipografia, passata attraverso una serie di bozze, sempre comunque dalla nostra attenzione evitata, perché noi leggiamo la parola correttamente pur essendo scritta sbagliata. Così come esistono studi più che abbondanti sul fatto che se si scrive una frase invertendo le lettere di ciascun membro che la compone, comunque la capiamo lo stesso, perché correggiamo automaticamente l'errore, o meglio lo riconosciamo come un errore in realtà proficuo, ci fa fare un salto tutto sommato anche di senso. E, questo mi sembra. C'è anche un corrispondente. Mi è capitato mai di vedere un'immagine come questa, mi ha fatto in mente. Sì. Questo è un transcrittoma. Transcrittoma. Questa qui è l'amplificazione dell'RNA, il messaggero di una cellula, cioè le proteine di cui noi siamo fatti arrivano da questo. E la tematica dell'errore e della trascrizione da questo punto di vista è, secondo me, è azzeccatissima. Intanto perché attiene allo star bene e allo star male l'errore, e talvolta sbagliando si sta meglio, nel senso che c'è un virus che più di tutti è riuscito a riassumere per intero il senso di un'epoca, che è l'HIV, è una stringa di informazioni che amplificate hanno una forma, è un virus molto primitivo, per poter diventare produttive di efficacia hanno bisogno di un corpo che ama, che vive, che ha figli, che legge, si studia, ma sto virus, questo retrovirus che non ha DNA ma ha RNA, per potersi replicare ha bisogno di agganciarsi a una cellula. Alcuni pensano che potrebbe non essere vivo un retrovirus, gli serve una cellula per agganciarsi. Fino agli anni 80 non si pensava che fosse possibile esistesse un retrovirus umano, se ne conosceva soltanto quello della leucemia felina o altro. Come fa a replicarsi il retrovirus? Taglia a metà con un enzima il DNA della cellula ospite e combina il suo RNA col DNA. Ora, la cosa sfiziosa qual è? Che nell'arco delle 24 ore, quando il virus entra nell'organismo, compie tutti gli errori possibili e ne fa tanti. È un virus difettivo, nel senso che gli errori gli permettono di archiviare le informazioni che in un ambiente mutato diventano un vantaggio competitivo. Mutazioni. E tanto è vero che oggi è diverso, ma per lungo tempo il grosso problema della gestione dell'infezione da HIV era il fatto che il virus sviluppasse resistenza. Cioè, a dire, una pressione inibente alla replicazione del virus con il farmaco, se non era più che forte, quasi assoluta, consentiva al virus di prendere l'informazione, ma questa informazione era il suo errore. In ogni ciclo replicativo compie un errore. E di fatto noi siamo una parte importante, però la parte importante è fatta da errori. Perché una parte importante del nostro genoma sono avanzi di retrovirus, cioè frammenti di virus antichissimi, che sono quelli che ci danno la caratteristica di come noi siamo. Allora, una delle cose che ieri nel tuo intervento mi sollecitavi, questo fatto che la scrittura semica va oltre il margine perché include anche il naufragio, quindi si apre all'imprevisto e al tempo diverso, quindi alla malattia, mi ha fatto venire in mente come Michaud racconta di quando iniziò a fare i segni, tornato da un ospedale. E se devo dire, il paziente di Marco mi ricorda una mano tesa a questa tua scrittura asemica. E forse con la scrittura asemica c'è la possibilità di ricollegarsi a una rappresentazione più intima, assoluta, un io biochimico che è pieno di errori, forse, che è questa trascrizione che poi cade, no? Come certe matrici, queste proteine, questi legami che sono fatti di lettere che dovrebbero essere la struttura della vita e che oggi in qualche modo riusciamo a a gestire con meccanismi di editing genetico a 200 dollari. Con il CRISPR oggi è possibile. Potete venire in mente una cosa? Editing genetico si chiama CRISPR. È la possibilità di. Si possiede una sintassi, ma è impensabile prima, è incredibile quello che può accadere. E in Italia ha fatto eccezione per i lavori di Anna Mirdolesi, di altri se ne parla poco, ma su Nature of Science ci stanno dei gruppi di discussione enormi, cioè le possibilità di opportunità e di ritorno sul soggetto singolo dell'intervento medico era enorme. Io quando ero iniziato a occuparmi di salute, mi ricordo questa grande conferenza stampa all'ospedale di Brescia, perché era stato fatto un intervento di terapia genica per il deficit di ADA, che è un'immunodeficienza primitiva nei bambini, Bordignone fece. Oggi quasi tutti i laboratori possono fare degli interventi di editing genetico. Che spaventato. No, che scherzi. Però io sono convinto che è perché noi abbiamo normalizzato tutte le letture. Certo, perché pensa non abbiamo più questa percezione che in realtà anche nella poesia, diciamo, lineare, la minaccia del naufragio è continua. Stavo ripensando, condivido qui, perché quest'anno è il centenario dell'infinito di Leopardi. Stavo ragionando sul primo verso e per la prima volta, pur essendo una poesia, secondo me, no? Conosciamo tutti, mi rendevo conto di averla mai letta, cioè di averla letta volendo essere rassicurato che tutto coincide, no? Come in decasillabo, eccetera. Penso due particolari volevo sottolineare. La poesia di Dilio si chiama Infinito e comincia sempre, sempre caro. Qui già sono naufragato. Sempre caro cosa? Quest'ermo colle, come può essere sempre caro? Cioè, non può essere sempre caro perché c'è da essere un inizio di affetto. Invece lui dice che quel colle è sempre caro, con un avverbio di tempo, diciamo, di colloquio, del parlato, fa naufragare immediatamente il testo. Perché tu inizi e dici sempre, sempre cosa? Da sempre caro? Cioè prima della nascita? Prima della concezione? Sempre caro, e allora già siamo. Poi mi usa, mi fu. Se è sempre caro, se c'è un'eternità di continuità, mi fu è un'eternità di morte, inesorabile. Sempre caro mi è stato, almeno di questo. No, mi fu. Quest'ermo colle, e qui naufragio. Perché? Perché lui non sa cosa dirà dopo. Perché se sapesse il vuoto, dopo il vuoto cosa avviene, non avrebbe commesso un errore sintattico mostruoso di dire sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe, ma noi scriveremmo sempre cari mi furono quest'ermo colle e questa siepe. Dunque quando lui comincia a scrivere, insicurezza e errore, si muove nel buio totale. Cioè Leopardi si muove, ci fa muovere noi, come se stesse generando la poesia nell'oscurità più profonda, cioè non sa cosa c'è oltre l'orizzonte. Non solo l'orizzonte della siepe, ma l'orizzonte del verso stesso, è sempre caro mi fu quest'ermo colle, porta subito alla esplosione della poesia, che diventa assolutamente illeggibile, cioè illegittima e incomprensibile. Perché io come faccio a un bambino a spiegare che un oggetto è sempre caro? Anche se lo usiamo tutti i giorni, ho sempre amato il gelato al limone. No? Però uno dovrebbe dirti, ma come sei? Tu stai usando una lingua che la fa esplodere. Leopardi fa esplodere immediatamente il testo, con una contraddizione fortissima. In realtà se noi leggessimo con i dati di distrazione e di disfunzione di oggi che abbiamo acquisito, il passato, probabilmente dovremmo rimettere ordine, o meglio disordine, nell'ordine che abbiamo compiuto nella lettura del passato. Per cui un testo ma come questo, sempre caro mi fu quest'ermo colle, non c'è un elemento solo che torna, non torna niente, non torna il verbo, non torna la sintassi, non torna l'ortografia, non torna la scelta dei tempi, sono tutti tempi sbagliati. Sì, il tempo, infatti è questa la cosa che ho pensato, perché alla fine è lo stesso discorso, se vogliamo continuare a giocare col genoma, e col fatto, coincide col fatto che i tempi sono differenti. Noi abbiamo una parte del nostro genoma che è un pezzo, sono tanti frammenti di retrovirus, quindi significa sostanzialmente che noi siamo frutto sia di errori sia di adattamento a questi retrovirus che hanno costituito quello che noi siamo. Probabilmente l'HIV è arrivato nel momento sbagliato della nostra evoluzione, e probabilmente si potrebbe anche dire che forse una delle caratteristiche più importanti della scrittura semica è la possibilità di occupare uno spazio, ma bisogna avere un tempo, forse per questo prescinde dal senso. Però c'è una cosa che è balenata ieri nella conversazione, no? Che è stata la questione della velocità. Ti ricordi? Vi ricordate, no? Come se fosse la velocità di esecuzione. Ah, ecco, fra l'altro volevo proporre una cosa. Siccome stiamo registrando, da editore benché dissennato, proporrei che la prima volta che parliamo, se possibile, dire il proprio nome, perché sennò ascoltando la registrazione è certo fa parte del caos. E la sigla. Comunque, io sono l'editore dissennato ed ecco qua. E, appunto, allora riflettevo su questa cosa e chiedo a voi, perché siete stati voi responsabili di questa introduzione del termine di velocità connesso alle scritture asemiche. Riflettevo perché quest'anno nel corso di type design, cioè di progettazione dei caratteri che svolgo qui a Roma, fra le altre cose abbiamo sperimentato una scrittura che dovrebbe favorire la memorizzazione. Quindi sono dei caratteri che vengono progettati intanto con una inclinazione contraria a quella usuale del corsivo, no? Il corsivo è inclinato verso destra. La prima cosa che si fa è si progetta con un back slanted, quindi retro inclinato. Il secondo intervento importante sono una serie di tagli nella struttura del carattere che dovrebbero favorire la memorizzazione, rallentando la lettura e creando come dei vuoti, perché crei proprio dei vuoti. Ovviamente vanno fatti ad arte, non è che vai lì e sciavoli come un pazzo. Ecco, per cui questo tema della velocità o lentezza mi interessa particolarmente, e volevo chiedere a te e a Giuseppe, a te Marco e a Giuseppe, qualche riflessione in più, se possibile, su questo argomento. L'idea di una scrittura backslanted, quindi cioè, mi sembra retrograda all'idea del retrovirus, anche. Quindi come se si fosse inserito, si inserisse una zeppa nella ruota di bicicletta e un rallentamento appunto nella velocità e di esecuzione e poi probabilmente di lettura. E, dal punto di vista di chi ha fatto le cose che appunto sono esposte lì, devo dire che le due cose, come al solito, poi sembra sempre che dico la stessa cosa, c'è questo, c'è quell'altro, c'è questo, c'è il discorso del senso trattino, non trattino, senso, come lo scriveva Garroni, però di fatto un po' è così, nel senso che il flusso dell'immagine che diventa poi quello che si vede su carta solitamente ha tempi di esecuzione abbastanza rapidi. Può succedere però che si crei la rapidità diffratta in tante serie, che è poi la sostanza del libro Enciclopedia Semantica, per cui esiste una idea di enciclopedia che è nata da una sequenza lineare eseguita con una certa velocità, ciascun pezzo con una certa velocità, però questa sequenza come idea e come concezione anche enciclopedica è diventata una specie di, come dire, elemento di contraddizione della rapidità intesa come tirar via, diciamo, e quindi diventa, pur nella sua ironia, perché enciclopedia chiaramente è ironico, non c'è proprio un po' di enciclopedico in una sequenza di serie di così, demolizione del senso attraverso la demolizione del significato del il segno. Però di fatto poi si creano questi micro laghi o micro fiumi di sequenziali, che quindi sono dei momenti in cui comunque l'occhio del lettore si deve depositare su una sequenza che occupa un certo posto anche di riflessione, di indugio sul segno. E quindi questo da una parte. Dall'altra c'è anche il ritornare sulla stessa opera, per cui a volte una sequenza viene allungata con una serie di testi sempre semantici, o altre volte la stessa tavola viene rielaborata, cioè non nasce così come poi viene esposta e pubblicata. Altre volte addirittura succede una cosa ancora diversa, succede che, visto che abbiamo già preiscritto nel codice dello sguardo che da qualche decennio ci fa vedere le cose in un modo particolare, non può essere pensata nessuna delle immagini che ci attraversano e attraversiamo, e dopo parleremo dell'esperimento che abbiamo fatto con Silvia Bordini e con Laura Cingolani, senza l'idea che questo segno si sviluppi nel tempo ma anche nello spazio secondo una serie di specchi contrapposti o di camera barocca delle meraviglie, perché il segno a sua volta, per esempio, tante di quelle immagini che sono di là sono state a volte riprese in fotografia, pubblicate su blog, siti e spazi che ho in rete, sovrapposti ad altri materiali, quindi creando un'ulteriore tavola semantica che prima non c'era. E quindi è stato preso un frammento di tempo di una sequenza, mescolato con un frammento di senso barra tempo di un'altra sequenza, creando una cosa completamente nuova. Prima con appunto Silvia Bordini ci sta, lei fotografava me e Laura fotografava noi due che eravamo in dialogo fotografico, e non ce ne accorgevamo, Andrea a sua volta da fuori fotografava noi. Questa specie di camera di specchi non ci fa sorridere perché è una cosa divertente, ma non solo non troviamo niente di strano, non solo non è che stiamo per fare questo usando questo, ma questo non sarebbe nato se non avessimo avuto, se l'antropos non fosse arrivato a un momento tale per cui aveva già introiettato tutta una serie di meccanismi della visione e della moltiplicazione della visione, della messa tra parentesi del tempo e dello sviluppo del tempo in dimensioni che poi si ripresentano in momenti strani dell'esistenza a distanza anche di tempi, che appunto ci connota come esseri umani. Per cui a me non sembra veramente, quando faccio queste cose qui o le vedo fatte da tantissimi altri nel mondo, di vedere nulla di strano o nulla di completamente estraneo e al percorso del Novecento, ma già, se vogliamo, ieri si è parlato anche di accumulo, al percorso della modernità. Cioè la modernità come luogo che nasce anche tra tante date, in quella fine 400, in cui di cose ne succedono importanti, tra tante almeno due, cioè adesso tanto la caduta dell'impero bizantino, ma la metà 400 la stampa e la scoperta dell'America intesa come luogo immaginario completamente vergine, completamente pieno di merci da accumulare, al punto tale che poi l'Occidente diventa una sorta di vittima di se stesso, della propria mania di accumulo, disintegra un continente e nello stesso tempo crea inflazione per enormi accumuli di merce in madrepatria. E imperi che effettivamente hanno, sì, da una parte colonizzato un altro continente, vengono improvvisamente a farsi vettori di una quantità infinita di virus mentali, di vere e proprie ossessioni d'accumulo. E qui la Wunderkammer appunto dice la sua. La possibilità stessa di accumulare, la possibilità stessa di vedere in prospettiva un oggetto accanto a un altro. In fondo, all'inizio del Novecento, l'incontro sul tavolo operatorio della macchina da cucire, cioè l'oggetto dadaista è già nella Wunderkammer quattrocentesca. Quello è un enorme e colossale laboratorio dadaista che permette di scompaginare i tempi e permette di scompaginare la sintassi del nostro vivere nello spazio in maniera assolutamente non più inedita. Cioè tutto nasce effettivamente in maniera talmente naturale, talmente storicamente distinguibile tappa per tappa, che poi l'arrivo di questo e la possibilità di fotografarci, diventa quasi un gioco sull'apice di un percorso di secoli. Io volevo riagganciarmi un po' a questo che hai detto, no? E dirti la sensazione che ho avuto ieri dalla mostra e dal libro. Ossia, ho visto il libro prima della mostra e il libro l'ho considerato un oggetto autonomo, a sé stante, no? Con, a proposito di velocità, di ritmo, no? Con tutta una scansione, tu prima dicevi un oggetto accanto all'altro, un oggetto dopo l'altro. E appena entrata ho visto la mostra e è tutta un'altra cosa, no? Perché la mostra è un oggetto accanto all'altro, poi con una certa struttura. Invece il libro è proprio una cosa compatta, che si può anche guardare dalla fine, dal mezzo, così, però insomma ha una sua struttura immutabile. E mi chiedevo in che cosa ti riconosci di più, anche se è una domanda un po' così, no? Ma tanto siamo sull'errore, quindi non ci facciamo caso, no? Nel senso che tu hai fatto nel tempo questa serie di, chiamiamoli disegni, segni, no? E poi a un certo punto hai deciso di raccoglierli in un libro. Poi questa cosa del passaggio disegno, fotografia, libro, mostra, lo trovo molto intrigante, no? Questi. E contemporaneamente al libro, insomma, hai fatto questa disposizione e volevo sapere in quale ti riconosci di più. Anche perché tu hai fatto questo lavoro nel tempo, chiaramente, no? Anche se dicevi con una certa velocità, ma insomma non so in quale tempo, di mesi, di anni, di giorni, di settimane. E poi a un certo punto l'hai raccolto come in due blocchi distinti, libro e mostra, che è un'installazione. Quindi sì, l'occasione in realtà è anche dovuta veramente a Fabrizio per il libro e ad Alberto per la mostra, nel senso che, come altre volte, ieri un po' spiegavo questa cosa qui, che a volte le cose si creano grazie a qualcuno che è esterno al processo creativo, ma questo penso, io adesso sto parlando tantissimo io sia ieri che oggi mi sento imbarazzatissimo al massimo, perché di solito io preferisco parlare di libri, però di fatto a domanda rispondo e in realtà li penso un po' come co-creatori, sia Fabrizio sia Alberto, nel senso, certo. Per esempio di Fabrizio, nel lavoro di impaginazione, che poi è stato completamente merito suo, e io ho scelto, abbiamo scelto insieme le sequenze e poi però tutta una serie di aggiustamenti tecnici mi sono stati suggeriti da lui, io li ho perfettamente accettati perché il flusso teneva perfettamente e quindi siamo andati. Il lavoro però di impaginazione è stato fatto da lui in maniera assolutamente professionale, con l'applicazione, come immagino si faccia normalmente in tipografia quando si tratta di comporre un libro complesso, di post-it, di appunti, di materiali, di diversa organizzazione dei blocchi che vanno inseriti nel libro. Questi post-it, io alcuni di questi li ho presi e li ho inseriti nella mostra, perché fanno parte di una sorta di così, idea osmotica tra segno, questi passaggi, semantico, no? E traccia appunto di un ordine, di una scansione, e invece quello che sta di là, che è tutt'altro che ordinato linearmente, quindi un'osservazione giustissima. E stessa cosa per lo spazio, e quindi in cosa mi riconosco di più? In realtà in quello spazio intermedio che non sta da nessuna parte, non sta né in un immaginabile enciclopedia che sta in un luogo che non è stato realizzato completamente dall'enciclopedia stampata né dalla mostra, e che potrebbe però un giorno essere realizzata se io prendessi tutti i pezzi, li mettessi in sequenze rigorose, li mettessi per esempio, non so, attraverso una serie di scansioni in rete, un archivio digitale, o mandando Fabrizio sul lastrico gli chiedessi di stampare un volume colossale, cosa assolutamente inesistente. Cioè, la cosa bella di questo processo per me è sempre stato, in realtà, e questo anche un po' per la scrittura lineare, è proprio la dimostrazione, che non è che uno lo fa per dimostrare quello, ma di fatto in itinere si accorge che sta dimostrando questo, che non esiste un enciclopedia, libro di poesie, eccetera. almeno per me funziona così. E la cosa bella, bellissima e fonte per me di infinito piacere, per cui non avrei mai smesso di allestire la mostra, era che lo scompaginare, in questo rendendo omaggio alla non esistenza di un archetipo libro, lo scompaginare in maniera rispettosa però verso il libro la sequenza di immagini all'interno della mostra, cioè prendere i pezzi e doverli adattare allo spazio, era in realtà un altro pezzo del lavoro, era un altro pezzo dell'esistenza stessa, dell'idea stessa di enciclopedia, prima ancora dell'enciclopedia come tal, come concretamente è fatta un certo numero di pezzi. Tra l'altro ultimamente c'è stato di là in uno dei folder, c'è una sequenzina di cose che non abbiamo inserito, che probabilmente erano troppo piccole, c'erano altri motivi, oppure semplicemente l'abbiamo scartato e ci stavano tantissimi altri materiali che abbiamo poi non inserito. E quindi il dialogare, lo dicevo ieri, con la particolarità del luogo, di là, che a differenza di qui, che è un aspetto strepitoso, bellissimo, proprio di galleria, con gli angoli retti e l'intonaco perfettamente liscio, beh, insomma, decisamente è un luogo che ti spinge a... Ecco, se immaginiamo un luogo solo fatto di ragnatele, è chiaro che cioè, quello strano uomo ragno che è il sottoscritto ci si muove moltissimo a suo agio nell'altro ambiente. Perché deve dialogare con i buchi dei chiodi, nella stoffa, in quella strana tela che c'è sopra le pareti? Le pareti sono coperte in alcuni casi di garza intonacata, in altri punti ci sono degli avvallamenti, ci sono dei buchi, ci sono degli spazi creati dalla sovrapposizione di più strati di cui però si notano le linee, come fossero linee di scorrimento e di discorsi che però sono lasciati al vuoto perché la parete è bianca. E allora lì è impossibile non scrivere sul margine qualcosa, non immaginare che questo sia parte dell'enciclopedia, o meglio, che questo sia parte di quella, lenta o veloce che sia, disgregazione dell'idea stessa dell'enciclopedia che si dà attraverso questo percorso che mi è capitato di avviare nel 2011, che poi è diventato un libro e questa mostra qua. E quindi proprio anche con episodi imprevisti e che effettivamente ti fanno pensare alle tante modalità di esperire la Semico nella nostra vita quotidiana. Avevamo due luci, una la vedete qui all'entrata, è all'entrata che illumina la prima sequenza di opere, un'altra sta un po' più all'interno e illumina su una parete invece una sorta di una sequenza intera di foglietti piccolini della scrittura semantica. Quella luce di là, l'ogena di là, 300 watt come questa, si era rotta perché era saltata, insomma, si era fulminata la lampada. Alberto non aveva tempo di andarla a prendere, sono andato io, e però non ho buttato la precedente alogena. Venendo qui ho considerato questa alogena rotta come un altro elemento semantico da mettere in campo. Tant'è che voi in fondo alla mostra, sulla sinistra, vedete un filo che pende, c'è questa alogena attaccata, che è asemica alogena, cioè è un'altra modalità con i suoi buchi, con le sue forature, con le sue strane escrescenze di vetro e plastica, una sorta di interruzione dell'idea stessa di luce, dell'idea stessa di illuminismo enciclopedico, cioè questa luce, questa illuminazione che non funziona, non funzionerà, e che pende dalla sua descrizione invece semantica, perché c'è scritto alogena, quindi si capisce, è un altro pezzo di continuazione di questo desiderio, volontà di disgregazione che evidentemente io vedo non soltanto alla base di una possibile, diciamo, veramente enciclopedia che fa sì che poi correggendo pezzo pezzo si arriva a invece una qualcosa che funziona, cioè accumulando lampade alogene rotte alla fine ce n'è una che funziona, anche no, perché nel senso che comunque vai dall'elettricista la compri, ma proprio per sé, cioè proprio per l'effetto che fa in sé, come momento di aggressione delle nostre certezze. E l'esempio dell'infinito è perfetto in questo senso, se c'è un testo di cui siamo sicuri è quello, e Giuseppe ci dimostra che è esatto il contrario. Posso dire una cosa? Sì, scusate, anzi no, sono bloccato. Non voglio. No, questo ieri, siccome sono venuta per tu mi hai detto di quello che ti pare, no? E come diceva lui, non so che dire, nel senso che ieri ho capito meglio cos'è questa scrittura, non scrittura asemica, e ho pensato come una zona ibrida, no? A un intreccio o accumulo, a seconda dei casi, di elementi che vengono dalla scrittura, dalla parola, dalla lettura, poco dal suono, perché la scrittura asemica non la puoi leggere, la puoi immaginare, no? E appunto ho pensato come a un qualcosa di ibrido, di meticcio, che un po' torna con quello che tu stai dicendo, mi pare. Forse una... Pardon, prego. No, era interessante, a parte la mostra è bella, grazie a tutti. Interessante questa cosa appunto del concetto di enciclopedia che metti in campo, appunto perché è proprio l'errore che ritorna, no? Il concetto di enciclopedia applicato a qualcosa di classificabile, cioè di inspiegabile, nel senso che appunto manca l'oggetto stesso di cui c'è, cioè una scrittura che manca di scrittura, e allo stesso tempo concetto di enciclopedia rinvia però a un'idea di totalità da cui viene la scrittura semantica, nel senso che ovviamente non si tratta più della totalità illuminista, però della totalità, soprattutto ci vorrei, cioè, ovviamente il mio discorso è tacito di errori, però diciamo dalla totalità illuministica, passando per la totalità romantica e avanguardista, per arrivare a quella di oggi che è impossibile, l'impossibile aspirazione alla totalità. Però è da lì che nasce anche questa dispersione, questa volontà di prendere tutto della poesia, perlomeno come la vivo io, nel senso come la vivo nella storia che mi ha portato verso le scritture semantiche e verso una pratica, diciamo così, totale, però dal punto di vista di oggi per me è appunto paratotale, nel senso che come Spatola era parasocialista, io non posso dire un paratotale perché comunque totalità mi marcia, non so come dire, non posso essere così romantico. Però appunto questa dispersione nasce da questa storia stessa vuol dire da questa volontà di appropriarsi del tutto e quindi di uscire appunto, che è la storia stessa della poesia del moderna, insomma, di uscire da se stessa, di appropriarsi di tutto, quindi anche degli errori, appropriarsi degli spazi vuoti, cioè cercare la libertà in fondo dove sta, dove possiamo andarla a trovare. E quindi non so, penso che tutta la storia dell'avanguardia del Novecento è su questo crinale, appunto la scoperta del silenzio, del buio, che ne so, penso a Debord, il film Il Manufo del Pesaro, ma penso anche alla storia dei movimenti politici, che estetico-politici, che per esempio appunto l'underground comunque è rifugiarsi nelle nicchie, negli spazi abbandonati, nel cercare di andare a fare, come è stato per il momento, perché mi veniva questa cosa leggendo anche il testo di Giuseppe, in fondo queste nicchie, questi vuoti, questi spazi abbandonati che la scrittura semica va a occupare, e quindi gli spazi del non senso, del vuoto, sono anche gli spazi che una politica alternativa ha sempre cercato di occupare, sono gli spazi nomadi, anche dei rave, che non hanno niente a che fare con il nostro discorso. Però per esempio il momento chi partecipava al rave all'epoca partecipava ad un'esperienza semantica, nel senso che le parole saltavano e lo spazio che veniva occupato era uno spazio vuoto, abbandonato, dimenticato, in cui che veniva vissuto un'idea di totalità, però totalmente post-industriale, l'ho buttata su delle suggestioni mie personali che mi sono rivenute insomma, guardando le normalmente non ce l'avevo così presenti, nel senso, in un momento della mia vita ero più chiaro, in questa fase della mia vita mi ero un po' dimenticato certe suggestioni. però ecco, quindi c'è tutta una continuità e una, a cui aderisco, nel senso di andare a scavare nell'errore, andare a scavare anche nella rovina e nell'incompiuto, in tutto ciò che può essere comunque continuamente rielaborato e che risulta un margine di libertà là dove tutto viene semantizzato, tutto viene occupato dalla società iperlinguistica, cioè quasi che, come dire, per me poi nella mia vita personale l'esperienza autentica, tra virgolette, perché non credo di avere esperienza autentica, però la materia prima con cui lavorare non è sempre una materia seconda. Mai, non è più il contatto diretto con un fare, ma è sempre un appunto il linguaggio già usato, già rielaborato, già sbagliato. Per questo il collage, questo la scrittura che si incarta su se stessa, che si perde e che comunque si dice come linguistica. Continua a ribadire la propria natura linguistica, tirandosi fuori però dal contesto di produzione del senso, cioè dal contesto del potere che produce, dal punto di vista politico, insomma, dal contesto produttivo di significati schiaccianti e inibenti. E poi per restare sul, butto un po' di cose così, nel senso, per restare sul discorso dell'errore, ho sentito ieri, grazie ai vostri post su Facebook, ho potuto partecipare un pochino di quello che era successo. Per esempio, per me, tu a un certo punto parlavi di tua figlia, del rapporto con lo scarabocchio, diciamo così, no? Ed è la stessa cosa che è accaduta a me, cioè nel senso che io ho recuperato un certo rapporto con la scrittura libera e quindi con lo scarabocchio proprio attraverso mia figlia. A un certo punto mi sono messo proprio a copiare dei suoi scarabocchi perché trovavo che c'erano degli equilibri, delle cose che io non riuscivo a fare perché ero sempre inibito, no? Invece a un certo punto mi sono messo a copiare il suo vagabondare, però adesso io sono lì a cercare di insegnargli l'errore, perché lei sta in quella fase in cui non può sbagliare, no? E allora tu stai lì a cercare di fargli di fargli comprendere l'errore, sapendo che devi fare tutto il doppio lavoro, cioè nel senso sia di, ovviamente fare la cosa fatta bene, però sul tempo saper lavorare nell'errore, saperlo fare diventare produttore di senso di senso. E poi pensavo, quando parlavo dell'errore, comunque nella storia dell'arte del Novecento, se non sbaglio, il grande vedo di Duchamp c'ha una frattura che ci introduce subito nel, come dice, se non sbaglio, in questo modo si è fratturato, e il caso, e lui l'ha voluto lasciare, giustamente. Cioè, e da lì nasce tutto poi in qualche modo, comunque Duchamp ci frattura anche a noi, anche adesso ci siamo liberati, non vogliamo neanche liberarci, certo, di certe cose, forse di un certo Duchamp magari sì, ma di altro no. Ci sta, diciamo, una Duchamp piena, delle cose di cui mi voglio liberare, diciamo, che l'arte contemporanea ha assunto e che mi non piace, però appunto l'errore, la vitalità, tutta che Duchamp ci ha regalato, penso che rimane un fonte inesauribile di senso, di senso non senso, esattamente. Vabbè, adesso anche i tagli sulla tela di Fontana, sulla tela, i cretti di Borri, No, quello che a me, io mi domando e lascio però a voi alla riflessione, è se questa è da considerare un segno senso positivo, per me chiaramente lo è, penso un po' per quello che si è detto fino adesso, anche per, non solo per me, ma di una post-modernità o comunque della contemporaneità che ci vede protagonisti e nello stesso tempo protagonisti di questo discorso, e che nello stesso tempo però non può che testimoniare del fatto che questi discorsi che stiamo facendo, queste pratiche artistiche che stiamo seguendo e non da adesso, sono comunque elementi infilati in angoli estremamente acuti, per non dire nicchie, e che quindi è come se continuassero a riuscire, questo in questo senso positivo, riuscissero proprio come tali a incunearsi nel discorso comune e incunearsi nell'ordinata gestione del potere, del linguaggio, del discorso, del senso dell'Occidente che ci vive, non è che più di tanto non riusciamo a vivere. Positivo ma anche negativo, nel senso cioè che comunque noi continuamente vediamo attivarsi gli anticorpi del sistema anche sotto forma di forme creative legate alle generazioni più giovani che semantizzano in maniera molto potente, no? Il ritorno all'ordine è sostanzialmente un mai essersene andato via, almeno in Italia, insomma. E su questo appunto volevo sentire un po' come, ma questa è una delle cose che anch'io ho messo in campo, ma ci sono tantissime cose da dare da ciascuno di voi avviate, per cui chi vuole? Ma sì, io ho un sacco di cose da dire su tutto quello che è stato detto, non so, ma pesco un po' a caso, anche su questo, forse partirei da questa cosa tua, l'aspetto di negativo, cioè quindi anche partire dall'errore, che poi il linguaggio non ci aiuta, continuiamo noi qua a chiamare errore qualcosa che abbiamo comunque rivalutato e che non abbiamo una parola, un linguaggio per, e quindi appunto. Quindi dal punto di vista del negativo che dicevi tu, in qualche modo la SEMIC è una risposta alla non semplice corrispondenza tra il segno e il significante, che è ovvia, la sappiamo tutti. E quindi questa corrispondenza la reinvento, però mettendo l'istinto alla guida. E in questo c'è una parentela con l'improvvisazione, perché c'era ieri qua Marco Ariano, certo. Perché comunque fare SEMIC è molto vicino a quel momento in cui, a quella terra liberata, in quella zona, se vuoi d'ombra, ma anche, io lo chiamerei anche mondo magico, yeah, che in cui il momento presente è protagonista, non come la scrittura che dicevi tu Giuseppe, anche il parlato, quello sicuro di sé che sa bene come incanalare, dove vuole arrivare e cosa sta dicendo. E quindi rispetto a questo, nel senso negativo, io ho questi appunti qua. E nel senso positivo mi piacerebbe parlare del fatto che c'è una SEMIC dentro ogni scrittura, in qualche modo, ce lo racconta un po' la grafologia. E quindi la SEMIC che tira fuori la scrittura proprio come gesto, in primo luogo. Che in qualche modo, tornando un attimo al negativo, aggiungerei che questa cosa della SEMIC risolve anche il problema che tutto è stato già detto, è stato già fatto, e quindi il codificabile è stato in qualche modo tutto già... Cioè abbiamo comunque questa impressione, anche se poi non è così, che è stato tutto già detto. E con la SEMIC esplori questo mondo in cui, ok, il codificabile è stato tutto già scritto, già detto, e il non codificabile no, ok... Muoviamoci qua. E poi oltre alla SEMIC writing c'è pure la SEMIC talking, infatti ero indecisa se cominciare il mio intervento con Fabio. Abbiamo questo duo in cui abbiamo lavorato molto sulla SEMIC talking, però insomma potrei anche non farlo, diciamo che era una suggestione. E quindi questo SEMIC che mette in luce e come protagonista e in primo piano questo gesto, cioè la scrittura come gesto, che di solito lo si dà per scontato, quindi spogliando del senso comunemente inteso, mette in primo piano il gesto, e a me il gesto sicuramente mi fa pensare alla dimensione del corpo, e quindi mi fa sentire comoda in questo senso, cioè la cosa positiva rispetto a quello che dicevi tu, che non mi ricordo che domanda è, però era qualcosa con... c'era se la SEMIC sia più o meno la questione era sia qualcosa che nega o che afferma, se non ho capito male. Sì, che diciamo che funziona come cuneo di inciampo per far divergere, insomma, noi per i percorsi e tagliare a metà, rendere un po' più schizofrenici di quello che sono già di fatto, nel senso negativo, il discorso del potere, oppure se in qualche maniera è talmente tanto estraneo alla cultura che viene più facilmente di altri racchiuso in un discorso di nicchia, neutralizzato, e comunque in generale che tipo di rapporto c'è e come possiamo inserirci, che senso ha inserirsi o volersi inserire in un discorso anche reso pubblico, insomma esteso, quando appunto il problema può essere questo. A me me lo avvicina al corpo questo fatto qua, e anche nel senso che dice meglio perché non chiude, cioè chiudendo magari anche secondo esigenze di onnipotenza e grandiosità, che comunque appunto, cioè, vorrei, cioè proprio per dire come se fosse possibile dire tutto in qualche modo questo, certo. E quindi dunque altri appunti che ho preso riguardano che poi anche la cosa di nicchia è questa lingua non accessibile più, quindi potrebbe essere anche un linguaggio segreto da condividere con chi magari è più vicino a te, una cosa come un codice che in realtà un significato in fondo ce l'ha, e che non chiudendo allora puoi esprimere qualcosa a cui non sai dare un nome, ed è proprio quello il bello, ma a cui non sai dare un nome, a cui non puoi darglielo, perché non chiudendo non definisce sul piano logico, non chiude e non definisce sul piano logico, ma chiude e definisce sul piano puro del segno. E quindi più o meno questo. E per tornare a quello che dicevi tu sulla trascrizione dei... casualmente il quaderno che ho esposto alla mostra ASEMIC, cioè casualmente, no, poi in realtà c'è tutto, cioè, per esempio l'ho fatto con la penna proprio che c'hai tu, Giuseppe, della Tiger, che adesso c'è in versione blu. Però cercavo da giorni il titolo di... prima l'ho fatto un quaderno di scrittura semantica, cercavo da giorni il titolo e l'ho trovato casualmente sfogliando un libro di biologia e che parlava della proteina e la descrive in qualche modo come... poi io l'ho intitolato, ho preso la tranche della frase trascrizione mediante meccanismi universalmente condivisi, e parlava proprio di quello che... cioè della trascrizione... Sì, e quindi vabbè. Per venire a questa cosa qui, mentre eravamo in macchina, parlavamo con Laura, c'è questa utopia della a parte un linguaggio utopico, c'è l'utopia tutto nella scrittura semantica, comunque tutti gli sconfinamenti della poesia contemporanea, ma c'è soprattutto tutti questi ambiti che escono fuori dalla poesia lineare, dalla scrittura semantica. Pure questa idea, questa utopia della traducibilità cioè reale, nel senso che comunque soffriamo, cioè io personalmente soffro dell'intraducibilità della poesia, perché la poesia è l'intraducibile in ogni caso. Se non conosci la lingua, sei sempre, anche se la conosci, sei sempre su questa soglia di... comunque se no appunto ti devi dare fiducia a quello che l'ha tradotta, e io non mi fido mica tanto, di poca gente mi fido del mondo, quindi ci sono dei poeti che magari non sono riuscito mai veramente a amare, però magari per colpa di quello che l'ha tradotto, e invece il gesto semantico, ma anche la poesia sonora, la poesia visiva, la poesia concreta, tendono ad andare in quel territorio che poi è il territorio a cui la poesia aspira, che è quello appunto, come dicevo prima, la totalità, il problema di un linguaggio per tutti, che il superamento del Babele, se vuoi, cioè, anche se poi ovviamente attraverso il Babele, diciamo che sulla fisicità della scrittura, in riferimento alla grafologia, ci sono i lavori di Clages che individuano proprio nella forma della scrittura, cioè questa sua perizia che fa per esempio sulla scrittura di Nietzsche, in cui affiora proprio lo spirito, il gesto formale di come la scrittura si ferma sulla carta, perché per lui spirito in termini di Clages è quello che forse diremo forma, cioè la forma fisica, come si dispone sulla pagina. Sul riferimento al cuneo che dici te, è vero che l'enciclopedia rimanda all'illuminismo, è anche vero che l'enciclopedia rimanda a un'idea diversa di tempo. Gli amici sanno che io colleziono libri antichi, o perlomeno quello che trovo sulle bancarelle. E c'è un'enciclopedia domestica stampata a Foligno nel 1828 in 16 volumi, che nasce con l'obiettivo di fornire informazioni rapide. Sono 16 volumi. Questo è divertente e fa riferimento alla sistematizzazione del sapere dell'enciclopedia, e che a sua volta ha rappresentato un cuneo di inciampo, diciamo così, perché riusciva a riflettere su una grande catastrofe che è stato il terremoto di Lisbona. Ecco, e una grande realtà semica è il terremoto, diciamo, terremotato di Spoleto, cioè casa con 40 puntelli. E ecco, su quella catastrofe, su quella crisi, su quella disfacimento di senso, tutti quei segni che stanno attorno, è sorprendente che, al di là del fatto che non è stato spostato nulla, perché è tutto uguale, ma non c'è stato nessun tipo di riflessione, perché forse rimanda da una parte a quell'aspetto che dicevi di ieri, cioè oltre il margine il naufragio non è contemplato, e rimanda anche a un altro aspetto che dicevi te quando mi è sembrata molto opportuna, la materia prima non è mai prima, è sempre seconda, no? Quando noi lavoriamo sulle cose. E di fatto riemerge una difficile da interpretare come linguaggio addetto ai lavori, riemerge una scrittura come può essere quella dell'immagine che prima ho mostrato, il transcrittoma, e dall'altra l'incapacità di pensare al senso di questa crisi che ha rappresentato questo terremoto. Cioè oggi, a tutt'oggi, 1000 chilometri quadrati che hanno cambiato assetto, un fiume nuovo che prima non c'era, laghi, che ha messo in ginocchio il luogo dove è nata l'idea dell'Europa, non c'è nessuno che ci ha riflettuto sopra. C'è l'incapacità di pensarlo, e allo stesso modo, e così come appunto la materia prima è sempre oggi una materia seconda, è l'unico modo con cui abbiamo possibilità tuttora di fare esperienza diretta delle cose, è la malattia, la messa in crisi del nostro corpo, e la gestualità a questo punto della scrittura, come ne parla Clages, proprio il gesto che prescinde dal significato, lo spirito che si trasfonde sul foglio di carta. C'è un canadese pazzerellone che ha abbinato delle lettere a una sequenza di DNA e immagina una poesia della vita con questa logica combinatoria che è particolarmente asemica, ma che mette assieme questi due discorsi che apparentemente sono lontani. C'è Christian Beck, ha fatto anche della musica, se non sbaglio, ha fatto di tutto, era un personaggio incredibile, peraltro sta in contatto con Moira, questo per dire, alle volte fosse curioso e interessante invitarlo da qualche parte. Cioè lui è un autore canadese che in questo momento insegna in Australia, però è di origine canadese, e tra le tante cose che ha fatto, noi sappiamo, so, per esempio La scomparsa, un libro di Georges Perec che ha scritto, La scomparsa è quella della lettera E, no, ha scritto tutte le lettere, le vocali dell'alfabeto, tutte le lettere tranne la E. Lui ha scritto invece, Christian Beck, ha scritto un libro che si intitola Eunoia, che ha fatto di 5 libri, ciascuno dei quali è scritto senza lavorare queste lettere. E questa è una delle cose che ha fatto, ma molte altre, soprattutto lui si è occupato di scrittura concettuale, e il progetto suo più ambizioso, per cui viene sempre chiamato effettivamente in causa, precedente il 2011, perché nel 2011 c'è stata un'occasione in cui ho sentito una conferenza ed era già un progetto attestato da anni, lui ha una formazione di genetista, anche se non ha mai esercitato professionalmente, e è riuscito a individuare un batterio, il quale è probabilmente la forma di vita più resistente nell'universo, e nel quale ha inserito un codice genetico che funziona da sorta di poesia che lui ha dato, attribuendo a ciascun segmento il DNA un significato, una lettera, eccetera, eccetera. Quindi ha costruito questa stringa da inserire al batterio. Il batterio ha risposto con un altro testo, e lui quindi ha trascritto i due testi e la mostra che lui di volta in volta porta di qua e di là è la descrizione del lavoro, la ricostruzione in 3D dell'elica, la sequenza, e i testi che sono nati. Questo batterio a sua volta continua a rispondere, cioè potrà replicandosi costruire e creare altri testi. Chiaramente muta e la parla. Non è sottoposto a alterazioni ambientali, si replica. E replicandosi ogni volta crea un discorso diverso e rischia di essere l'entità vivente più l'arca dell'alleanza della parola eterna sostanzialmente, perché è capace di resistere alle temperature al centro di una stella, è capace di resistere al freddo dello spazio esterno, eventuali catastrofi nucleari, non ha nessun tipo di difficoltà che abbiamo noi, quindi lui individuando questo è proprio la vita come se avesse se c'è fosse un organismo pluricellulare sarebbe un problema per tutti. Dove l'ha trovato? Non lo so. No, ma ci ha messo parecchio. Ci ha messo un bel po'. È impressionante vedere Christian Bruch che performa la descrizione di questa scoperta e di questa produzione di senso e risposta di senso da parte di questo organismo, perché è di una violenza impressionante. Lui fa l'elenco delle cose a cui questo batterio riesce a far fronte in maniera vincente, ed è agghiacciante perché appunto configura una sorta di mostro linguistico in realtà. Tanto che quando nel 2011 ho assistito a questo intervento ero proprio fatto la perfetta convinzione che la soluzione, diciamo, radicalmente opposta che intravedo, vedo discorsi anche nostri, sia precisamente l'opposto, cioè un accrescimento di debolezza, un accrescimento di sottrazione e di senso, di significato e proprio di durata. Però basta, insomma, mi interrompo perché ho chiacchierato. Infatti, meglio i virus che i batteri. Ma sì, io potrei dire delle cose, ma potrei anche non dirle. Invece di dirle, dicile. Sono indecisi. Dicite. Prima perché, diciamo, in questo periodo perdo continuamente il filo del pensiero. Insomma, diciamo, una cosa che è cominciata da un po'. Quindi mi sono appuntato delle cose, però la cosa che volevo appuntarmi strada facendo l'ho dimenticata, quindi adesso è tutto quest'ultima mezz'ora sto cercando di ripercorrere per ritrovare quella cosa lì, ma non l'ho trovata, quindi le cose sono secondo me degli scarti. Ma va bene, forse la cosa che potevo dire è che l'errore, diciamo, in realtà non esiste, noi insomma non esiste, cioè come non esiste niente, e ma è soltanto in comparazione a un'idea di norma, che è un'idea di norma innanzitutto modificabile continuamente, e quindi anche l'errore in qualche modo, come dire, innanzitutto l'errore viene sempre trasportato nella norma, quindi ciò che nasce come errore poi a un certo punto viene codificato come norma e quindi non lo è più, quindi dagli errori grammaticali, e quindi insomma, diciamo, lo stato è quello che noi chiamiamo erroneamente errore, che in realtà è una condizione di partenza di qualunque cosa. Quindi, diciamo, c'è una sistematizzazione dell'esistente, diciamo, il linguaggio, qualunque cosa, il tavolo, tutto viene organizzato, poi c'è un errore, questo errore diciamo, viene rifiutato, ma poi a un certo punto invece si impone quanto errore, quindi è qualcosa di vitale. Poi insomma volevo dire anche qualcosa, insomma, quando tu hai parlato del cuneo, mi ricordi cosa hai detto? Sì, appunto questa sia una nicchia, questa fra ordine, fuori l'esistenza. E funziona proprio come nicchia, proprio da pietra d'inciampo per quei flussi di discorso più grandi che occupano tutto lo spazio semantico, ipersemantizzando tutto. Sì, no, forse no, mi sa che non niente. No, volevo, ma sulla velocità mi era venuta in mente una cosa così stupidissima, poi insomma cito un lavoro, quindi è di cattivo gusto, ma lo faccio lo stesso, e di questo progetto di un po' di anni fa, che consisteva nella proiezione di tutta la recherche di Proust in 7 minuti e 20, quindi diciamo andando a velocità estrema, succedersi delle pagine su questo segno, su questo codice a barre, che traduce a sua volta la parola Proust. E questo, diciamo, era così l'idea provocatoria, che la nostra capacità di lettura cresce con il tempo, diciamo, da bambini leggiamo io sono, poi a un certo punto leggiamo speditamente, adesso con la lettura veloce possiamo leggere di riga in riga. Quindi un ipotetico futuro potrebbe far sì che la visione di questo cortometraggio di 7 minuti e 20 poi permette a tutti quanti l'idea di conoscere l'intera opera. Ma rispetto adesso non mi ricordo quale opera è stata citata ieri, quello che accade mentre invece viene proiettato questo film è che tu vedi, voi l'avete visto? No, io sì. Tu l'avevi visto, sì. Cioè la cosa almeno che a me colpisce di più è che questo spostarsi degli spazi bianchi, quindi c'è una sorta di animazione, quindi tu vedi, in realtà vedi anche le parole ti entrano dentro, perché almeno qualcuna ha la coscienza, colpisce la coscienza, e invece altre parole vanno semplicemente così. Ma comunque questo spostamento degli spazi bianchi secondo me è la cosa più bella, no? Insomma, almeno. Sarebbe da riproiettare. So, volevo, vabbè, ma solo delle semplici. Anche quello che diceva prima Laura, mi fa pensare alle note nostre occidentali, quindi codificate con degli intervalli di tempo stabiliti, e invece la musica, credo, orientale, dove non ci sono gli intervalli, quindi diciamo la scrittura asemica, semantica, è un po' come se fosse un continuo, laddove invece il linguaggio normale, oppure tutto quello che ha significato, codificato, in qualche modo si attiene a degli intervalli così stabiliti, convenzionali. Poi basta. Interrompetemi. Perché è interessante il discorso della natura meticcia delle scritture. Ma, come dicevo prima, io vengo da un settore più visivo o duchampianamente non retinico, come vogliamo, insomma. Quindi queste cose sono stuzzicanti e nuove, no? Le sento un po' come per la prima volta. E mi fanno pensare a una zona ibrida, no? Una zona in cui possono succedere molte cose, il contrario, e che è fatta di mescolanze, insomma, è proprio un passaggio continuo, questa scrittura asemica, me la sto immaginando così. Poi un'altra cosa che ieri mi è venuta in mente, perché tu tenevi questa bambinetta in braccio, no? Allora mi è venuta in mente che tempo fa stavo con una bambina di 4-5 anni e io stavo scrivendo qualcosa. Allora questa bambina ha preso un foglio e ci ha scritto sopra, non sapeva scrivere, no? Ci ha scritto proprio imitando la calligrafia, no? Con l'angolazione, con questi segni alti e bassi, così. Poi con aria un po' spavalda me l'ha portato e io ho chiesto: cosa hai scritto? E lei mi ha detto, leggilo tu, perché io sapevo lei. No, questo mi ha dato la sensazione, anche ieri mi chiedevo, questa bambina che ascolta tutte queste cose, no? Che leggere e scrivere è un mistero, no? Che a un certo punto non diventa più un mistero perché impari a farlo e impari per sempre. E questa scrittura asemica è come un po' un ritorno indietro, no? O l'intenzione di tornare indietro, di perdere questa conoscenza che ti rimane appiccicata per tutta la vita, perché è un bene, insomma, io amo i libri, amo leggere, scrivere e tutto il resto, no? Però forse mi sono immaginata questa zona semica come un tentativo di regredire a un momento in cui ancora non sai che quei segni significano qualcosa, li devi far leggere a qualcun altro. Interessante, mi viene in mente che Milton Erickson, il grande psichiatra che comunque è stato anche un grande ipnotista, lui una delle tecniche per ipnotizzare i suoi pazienti era proprio fargli ricordare l'apprendimento della scrittura, era una sua tecnica che utilizzava normalmente, che riportava in una dimensione di trance, cioè, facilmente in una dimensione di trance, di inconscio, Io non me lo ricordo, ma credo che il momento in cui capisci che quelle strane cose, quegli strani segni significano delle cose che tu puoi riprodurre, trasmettere, no? È proprio una rivoluzione più che della comunicazione, del pensiero, del modo di pensare. Cioè, mi ha fatto venire al macro nel ciclo della parola che curo sul leggere, Gabriele Miceli, che è un neuropsicologo, e lui raccontava proprio di come leggere e scrivere sia un'attività contro natura, nel senso che a differenza di tutte le altre attività che noi compiamo, le possiamo apprendere semplicemente osservando gli altri, mentre per leggere e scrivere bisogna seguire un percorso specifico e la cosa curiosa è che una volta che uno ha appreso, poi non puoi guardare una scritta e non riconoscerla. Lei l'ha preso per sempre, no? Cioè, ce l'hai attaccato, sì. La leggi, sì. Anche se non conosci la lingua. Sì, paradossalmente... Se tu hai la codificazione, della Carolina, perché in realtà se noi prendessimo dei codici di testi che conosciamo benissimo, del 200, del 300, del 400, del 500, in corsiva, in cancelleresca, e li mettiamo qua, noi ritorneremo all'emozione della scrittura, cioè della calligrafia. Non saremo in grado di leggere un sonetto di Petrarca perché la scrittura rode, la bella scrittura, la calligrafia rode il senso, lo consuma, è come se fosse una piantagione, come se fosse un'etera sui testi. Considerate che il codice, ad esempio il codice di Petrarca, quello virgiliano o quello proprio della Biblioteca Nazionale a Parigi, del suo canzoniere, uno non ha lo spazio, non ha gli spazi, no? Scrivono senza spazi. Due, quando decide di utilizzare una cancelleresca è talmente bella, è talmente arabescata, è talmente prodotta da uno che non sa leggere perché sta ricopiando semplicemente i caratteri. Pensiamo agli amanuensi, noi abbiamo intere generazioni che hanno scritto senza leggere, cioè in cui la scrittura era la potenza del segno che disegnava, tanto che all'università esiste paleografia, che è proprio l'apprendimento di poter decriptare delle meravigliose scritture che risultano incomprensibili, e poi la parola è panem, deus, e tu dici ma com'è possibile, come se adesso avessimo una gotica tedesca qui sotto gli occhi, prendiamo una ballata di Goethe, e sfido chiunque che non abbia una pratica forte con quel tipo di calligrafia di poter decriptare quella scrittura. Si potrebbe dire che i codici, i grandi codici, quelli chironomici, sono tutti protetti dalla scrittura, cioè come se fossero velati dalla scrittura, più che mostrare che rimanere epifanica rimane invece la capacità di oscurare attraverso la bellezza della scrittura. Per cui la calligrafia, quando tu ieri accennavi al problema della calligrafia, la calligrafia è sovversiva di per sé del senso, a meno che tu non abbia la chiave per sciogliere la catena. Il passaggio da questo punto di vista che prima tu accennavi, dal libro alla mostra, fa venire in mente tutto il lavoro di Roger Chartier sull'ascoltare il tempo con gli occhi, perché il supporto su cui il testo si appoggia ne modifica la fruizione e la percezione. E lui fa proprio l'esempio tra Don Chisciotte e Shakespeare, quindi il testo scritto e questo blocchetto di memoria che a un certo punto compare la possibilità di cancellarlo o meno, che fa un po' il paio con il Notes Magico di Freud, ma che però esisteva, era un oggetto realmente fisico che si ritrova poi probabilmente nominato in Shakespeare. E la modalità con cui la calligrafia o il libro stampato presenta il testo, quella è una pratica chironomica, una pratica statica, no? Quando lui ti deve prima la velocità, io credo che sono due le velocità: una è quella statica, cioè dell'arabesco o del bambino, per tornare all'infanzia, che ancora fa il segno, poi purtroppo deve imparare, per fortuna, che quel segno ha un senso, perché all'inizio c'è il piacere. Nei grandi trattati di calligrafia c'è la legatura, no? Non devi mai staccare la mano, per cui è già bello che tu dici a un bambino non staccare mai la mano, diventa come un acrobata. Cioè, io ti ho detto la frase, tu non devi mai staccare la mano dalla cosa. Io invece immagino e sono convinto che alcune scritture asemantiche siano fratture e attacchi epilettici. Cioè, appartengono ad epilessie delle giornate dove tu esci dal sistema. Cioè, in un certo senso lo rompi. E succede raramente, ad esempio, perché noi possiamo anche codificare l'epilessia psichica, cioè diciamo il trauma, la insofferenza, pensiamo in musica, pensiamo, io posso addirittura codificare l'urlo, però ci sono nell'arte, raramente, dei musicisti ad esempio hanno deciso di mettere in nota il momento di naufragio, cioè facciamo un'ipotesi, se Chopin in un notturno deve esprimere un sentimento di dolore, comunque lo musica, cioè segue la sintassi e la grammatica musicale. Non è che c'è l'indicazione di prendere il pianoforte e chiuderlo sbattendo in questa maniera. C'è soltanto in uno o due momenti in Schubert che in un momento sbatte le mani e praticamente rompe il sistema sintattico grammaticale. Chopin cosa fa? Fa una diteggiatura, la diteggiatura delle mani, che provochi dolore mentre tu stai suonando. Cioè tu dovresti prendere con il medio quella nota, lui ti dà indicazione che devi prenderla con l'indice, tu non capisci perché, è innaturale, soprattutto crea alla mia muscolatura una tensione muscolare che mi darà dolore, per cui tu ti pieghi sulla tastiera, molti pianisti, non grandissimi pianisti, correggono la diteggiatura e la rengono no? Soffice. Per cui io penso che molte scritture siano attacchi di rottura del sistema. Cioè del sistema proprio del potere, come diceva lui, che va dalla mattina fino alla sera, no? Del nostro sistema, per cui non direi un'imprecazione, non direi un gettarsi a terra e urlare, però una disubbidienza radicale e inevitabilmente veloce. Perché deve essere veloce? Perché altrimenti devi rientrare nel sistema, altrimenti come se, a questo punto c'è il naufragio, no, e cioè dopo non ci capiamo più il riferimento alla e derivi, o la riferimento alla codifica, oppure c'è la codifica, il riferimento alla epilessia è perfetto. Io dico epilettico per dare l'idea di una velocità, sto lavorando proprio su questo, e c'è il riferimento nell'Idiota di Dostoevskij, dove c'è una delle due almeno descrizioni di crisi, forse le migliori in assoluto. Principe Mischi. Lui lo dice a un certo punto, la sospensione, cioè il ritorno dopo l'assenza, sì, è quella pienezza assoluta di vita di fronte alla quale lui ama la sua epilessia, è una assaporare, per cui il gesto di... Perché solo in arte c'è questo gesto, cioè in arte performativa eccetera, non c'è né in musica né in poesia, noi in poesia non abbiamo il poeta che a un certo punto fa un gesto o come fanno i bambini. persa la pazienza, a un certo punto la distruzione. Quell'elemento distruttivo entra, secondo me, in molte scritture asemantiche, cioè chiamiamolo nevrotico, forse nevrotico non psicotico, ancora, in alcune forme forse lo è. E ad esempio in arte può accadere che tu a un certo punto, in un happening, non potendo prevedere tutto quanto, fai esplodere il sistema. Esplode il sistema, potevo fare un esempio banalissimo, la cariola di Pirandello, cioè io torno a casa, a un certo punto mi chiudo, prendo il cane, gioco col cane a fare la cariola, poi ritorno nel sistema, ma quella, aver giocato quel secondo mi salva. Potremmo dire che ha un elemento salvifico per chi la fa la scrittura asemantica, non per chi la legge, cioè chi la legge può soltanto esercitare per un attimo l'etica dell'insensatezza, cioè l'etica assoluta della bellezza del segno che disegna e basta. C'è un'opera molto bella di Munari dedicata alla calligrafia giapponese, dove Munari dice: a me interessa la calligrafia giapponese, la scrittura giapponese, perché non la capisco, perché se la capisse non ha più senso per me. E lui a un certo punto fa un segno e poi fa una scrittura nostra corsiva al contrario, però tu dici: va bene, forse devo girare, giri, e leggendo la frase dice: non ti è servito niente girare, non ha senso mettere il retro, cioè non ti salvi, è il retro di Corrado Costa, cioè non è, tu eri convinto che avresti trovato la soluzione, basta girare, mettere il dritto, no? Ah, guarda, non riesco a leggere, faccio così e lo leggo invece in qualsiasi direzione, tu non leggi, e lui dietro tu vedi, devi mettere in controluce per leggere la scritta, e tu sei molto felice perché pensi alla tua soluzione, e lui ti dice: hai girato il foglio, non ti sta servendo a niente, cioè la scritta non la puoi leggere. E io credo che sia un po' questo il gioco della scrittura. A proposito di questo, voglio dire che una cosa che ho notato, insomma, che mi interessa nella scrittura semantica e in generale anche nelle scritture concrete, è questo elemento della diseducazione, direi pure, nel senso, per metterla in un'altra terminologia, dal senso e dello sguardo anche, nel senso che io mi chiedo tante volte nelle cose che faccio di vedere che il lettore, il spettatore, tende subito, la sua tendenza è quella di costruire il senso, a leggere. E come nei quadri astratti. Sì. No, quando dicono: beh, qui forse è una barca che sta scendendo, c'è un cavaliere, esatto. No, questo qua. E a me questa cosa interessa, questo alle medie, no? Beethoven, che ci dicevano, e noi scrivevamo qui una tempesta che si avvicina, c'è un ruscello da una parte, e ci hanno rovinato totalmente. Noi siamo pieni di abusi di senso, noi siamo stati abusati. Poi c'è la musica da film, certo, no? Quindi dicevano: che sensazioni ti suscita questo brano? Ed erano in genere musica descrittiva, per cui tu dici: io qui è come il bene contro il male, e stai ascoltando la 111 di Beethoven, che non a caso si chiama 111, opera 111, se no avrebbe detto lo scontro tra il bene e il male. Tutti i titoli al chiaro di luna sono dati dall'editore, mai dall'autore, è l'editore che cerca di dare a noi una maniglia per aggrapparci, per non rischiare il naufragio di senso. Appunto, che invece aspichiamo, insomma, che lo scopo. Beh, insomma, diciamo. Avendo fatto questo omaggio all'infinito, tenete presente che l'infinito è l'unica poesia, credo sia l'unica poesia in tutta la storia della poesia che non ha ritorno. Certo. Perché che non ha ritorno. Se perché no, anche no. Quando fai lode all'usignolo, comunque alla fine c'è un ritorno. Il naufragarmi è dolce in questo mare, possiamo interpretarlo come ci pare, però la poesia non ha ritorno, cioè il naufragio non è poi che lui torna e racconta: ho avuto questo naufragio, cioè non c'è un tempo passato, ma dato che è tutta impresa diretta c'è anche il non ritorno. In realtà è un non ritorno, perché se prendiamo in ordine cronologico le poesie di Leopardi, da quel momento in poi lui andrà verso il deserto fino a raggiungere nella ginestra il vulcano, per cui abbandona per sempre la camera, la famiglia, la casa, la biblioteca, e allora capiamo perché l'Ermo Colle è il deserto, ma già, perché gli è sempre caro, che capisce quello il suo destino, e dunque la poesia diventa infinita, nel senso che non rientri più. Io questa la sento potente quanto la poesia asemantica, in questo senso, perché i semi non mi tornano più, non riesco più a, metterli a posto. Mi rendo conto che non li metto più a posto, in questo senso. E non credo che sia la più spinta, dove Leopardi più osa, però già lì sta usando la disubbidienza totale a tutti quelli che sarebbero i sensi, no? Del significato. Per cui, diciamo ieri, alcune scritture asemantiche hanno, come il libro, l'apparenza dell'ordine. La calligrafia ha l'illusione dell'ordine. Cioè ti dà l'idea, io ci sono le linee, rispetto tu ci sono le pagine, lo puoi anche sfogliare, poi non ha senso niente. Beh, a volte cioè, l'infinito di Leopardi ha questo elemento, ti dice tutto a posto, è un sonetto, poi dice un anzetto perché c'è un 15 versi, deve essere 14, tutto va bene, no, nulla che va, non torna nulla. Nulla torna più e tu ti sei smarrito dopo il primo avverbio, giù dal primo avverbio sei già nel naufragio, ma non avviene alla fine, avviene da subito, immediatamente, perché poi basta andare un po' in avanti, al di là di quella, quando dice basta andare in termini spazio, al di là di quella, come quella era questa, tu sarà questa sempre perché quella, ma dove ti sei mosso intanto? Però ha detto sedendo. Perché ti metti seduto perché altrimenti il naufragio non potrebbe arrivare neanche al 15° verso se non ti metti a sedere, cioè se non sei collocato seduto, se non sei fermo, precipiti già al secondo verso, sei nel la jambamant ti porta all'infinito, non sapresti più andare avanti, per cui sedendo è forse il verbo più importante dell'infinito per poterlo dire. Qui è il perno, dove ti puoi appoggiare. Beh, tutta la poesia di Leopardi è fatta di maniglie e aggrappi, questa siepe, questo colle, perché se non ci fossero i dimostrativi o il pronome personale, vaghe stelle dell'orsa, io non credevo, tra io e me ce ne saranno tipo 80-90 in tutta la poesia, se li togliete non rimane più niente. Si perde tutto, il ricordo diventa deflagrazione del nulla nell'infinito, non c'è più niente, c'è la tua casa, non c'è la tua casa, c'è la tua casa spezza nell'eternità del nulla. Leopardi è una voragine continua e questa voragine lui la deve tenere compattata il più possibile. Se noi lo leggessimo in chiave contemporanea, cioè come leggiamo a volte le scritture contemporanee, arriviamo terrorizzati alla fine dei versi, arriviamo terrorizzati, oltre che c'è un problema di respirazione perché gli endecasillabi ti rendono afono e non hai più la possibilità di riprendere, non sai quando devi riprendere fiato, per cui in un certo senso a metà, quando dice arcana felicità, io ho calcolato una volta che ho provato a leggerla rispettando tutto, che lì sarei collassato io come svenimento per afonia, per cui in realtà sei tu che fisicamente, questo l'ho insegnato però Dante Alighieri, nel bacio di Francesca, perché Francesca quando parla del bacio, tu sei in tezzine, e lì scatta la quartina e tu il fiato, bah, oh, e allora dici, la bocca mi bacia tutta tremante, e tu dici, ma che è successo? E mi fai provare fisicamente l'emozione che ha provato quella lì, e siamo l'unica quartina di tutto il canto, tu fai tezzine, tezzine, fai pausa, e questo c'è. La bocca che ho tutta tremante invece è una quartina, per cui all'improvviso la tua voce è completamente strozzata e tu hai il cuore in gola. Dunque lui ti fa provare l'emozione fisiologica del bacio. Lo stai dando anche tu, lo stai ricevendo anche tu, soprattutto la tua bocca è tutta tremante mentre lo sta dicendo. Leopardi da qui impara, no? Moltissime cose, e allora cosa fa? Cerca di rendere fisiologica, epilettica la sua stessa. Ti contorci, a un certo punto ti contorci durante la lettura. E io credo che noi abbiamo la fortuna di poter rileggere tutto, come Chopin, certo. La lideggiatura. No? Quando tu fai la lideggiatura la corregge la lideggiatura di Chopin. Quando tu vedi i pianisti grandissimi, soprattutto sono due o tre che lo fanno, Ivo Pogorić è l'unico che suona con la lideggiatura di Chopin, voi lo vedete a un certo punto lui si china e dice. Sei scenata romantica, sta male. Gli studi di Chopin in una lettera scrive che questi sono esercizi per prepararsi alla morte, al lungo. Per cui se non si sembrano quello vuol dire che devi incarnarli dentro di te, e dunque pone dei problemi. Se molti non lo fanno per motivo ti rovini la corriera, cioè come spezzare la voce se io no, faccio troppo il programma di deggiature che mi rovinano, arriva la tendinite. in quel senso. E io ho visto ad esempio che, ecco, c'è tutta, Arrigola Totino, tu hai citato giustamente, secondo me c'è un elemento vocale che noi abbiamo perso, cioè che abbiamo normalizzato una poesia che dovremmo recuperare totalmente, per cui alcune poesie, adesso sto pensando perché in questo momento stavo ripensando un po' alle Infinite Leopardi, non sono sostenibili fisicamente. Ma comunque, a dire proprio nella pratica che noi facciamo della poesia sonora, comunque sì. Per me c'è questa componente dell'insostenibilità e della fisiologia, cioè nel senso è un'improvvisazione, ma è anche un corpo, il corpo per proprio quanto riguarda, in realtà il corpo del poeta, insomma, messo un po' all'equilibrio, ma comunque che deve sfidare un po' anche la sostenibilità senza l'addestramento, nel senso che l'attore farebbe molto meglio quello che faccio io, così come a volte anche nella scrittura semantica un artista vero fa molto meglio del poeta, ma è proprio, come dire, è quell'andare verso quella fisiologia che ha anche un senso, nel senso che per me è importante questa cosa, nel senso di non essere della fisicità e di non essere un professionista di quella fisicità, nel senso che appunto io a volte dico, ma quando mi capita di vedere la scrittura semantica praticata degli artisti contemporanei, c'è un po' rosico, insomma, vedo che a volte c'hanno degli strumenti formali, visivi, compositivi che tosti, no? Però poi nella pratica che nasce invece dalla poesia, che penso che è quella che ci appartiene, nel senso di scrittura semantica, comunque quello che mi interessa a me è questo collegamento alla poesia, non semplicemente all'autonomia del genere di scrittura semantica, mi interessa proprio questo collegamento a tutta una pratica. C'è anche questo non essere appunto professionisti, quindi questo sbagliare veramente, e quindi questa fisiologia esperire veramente questa fisiologia, questa deformazione, che è la deformazione della mano, perché comunque se tu stai lì a riempire un quaderno, non so come fa il Marblanc, a riempire un coso così, cioè, sì, un po'. E poi quello è molto disciplinato, eh? Quello è disciplinato, tra copia, sì. Diciamo ieri. No, ma comunque è pure ordinato, insomma. Lei fa trasudare il senso dell'insensato, per cui parte dal senso. Però ecco, io in generale quando mi metto a scrivere, un po'. C'è una mano che non fa, e così quando sei sulla scena e performi con la voce, non sai se la voce ci arriva, a dove vuoi andare, non è importante, perché comunque fa parte del mettere in atto una fisiologia, un accadere, un precipitare, se vuoi, anche nel vuoto, diciamo così, nell'errore. Le famose due pagine di cui si discute della una stagione all'inferno, per cui sono queste due pagine bianche, non si sa se ha fatto certo un errore il tipografo, se a un certo punto Rimbaud all'improvviso ha deciso che la sarebbe male, era una pagina, due pagine bianche, e tu sei assolutamente, non sai se è un errore tipografico, se poi sono certo tutte copie distrutte, quelle lì, per cui le poche che sono sopravvissute creano un elemento. Ma non lo so, questo è grafico. In mezzo? Sono in due punti diversi, ci sono due pagine completamente bianche, okay, che immagineresti un libro comunque tradizionale di poesia, perché è un libro dell'Ottocento, di poesia che, no, esce poco prima del 1870-71, lui riceve il colpo di pistola per re, cui era appena uscito l'anno prima, lo stesso anno, 71, e queste due pagine bianche, alcuni sostengono per diceria, per rumores, che sono state indicazioni di Rimbaud al tipografo, cioè che non è un errore. E poi perché è un po' assurdo che due pagine bianche, no, vengano a due punti distanti in questa maniera. E però sono un momento che ha ispirato Mallarmé quando decide che potete no, la costellazione. Si è fermato con una pagina bianca, perché mi sopra la scritta la costellazione dello spazio della lì. Sì, perché prima c'erano i giochetti, no? Lawrence Stern, cioè noi abbiamo degli inserimenti asemantici oppure a quattro pagine di punti di qui, no, però fanno parte all'interno di un gioco. Lorenzo Stern le usa una pagina talmente nera, perché dice cancellai la pagina, per cui la cancella tutta, racconta che ha cancellato la pagina, viene completamente cancellata e il tipografo riproduce la pagina cancellata, la prima pagina, la prima cancellatura, il primo sgro, ricordo. Invece queste due pagine bianche secondo me sono interessanti, perché è come se lui lasciasse anche dubitare che non sia un errore, cioè che il caso è intervenuto lì dentro e all'improvviso lascia due pagine completamente bianche e sono solamente suggestive. Come io ho sempre adorato e non ho mai trovato, la sto cercando da anni, per cui mi raccomando, è anche un appello, c'è un libro di Giorgio Manganelli, il nuovo commento, che è un libro dove all'interno ci sono solo le note di un testo che non c'è, no, ma qui ci sono le note e tu dici nota 1, nota 3 e non c'è il testo. Questo si trova, il nuovo commento si trova. Copertina scelta da Giorgio Manganelli di un asemantico giapponese, già quello è interessantissimo, che noi avevamo in mostra con Concreta, perché abbiamo fatto un omaggio a questo giapponese di Manganelli. Ebbene, quando l'Einaudi pubblica il nuovo commento, si pone il problema della fascetta. Cioè, che fascetta mettiamo? La fascetta, quella pubblicitaria. Italo Calvino propone questa fascetta, che non sarebbe male, non sarebbe stata male. Da questo libro non verrà tratto un film. No, mi piaceva l'idea, perché in realtà Manganelli propone un'altra fascetta, che è quella che poi è uscita e che io non ho. La fascetta. La fascetta, mi manca la fascetta, perché non è, poi tu la buttavi. Tutte le cose. Fascette, tu lo sai. Beh, c'è un collezionismo di fascette. Ecco, la fascetta, la ritengo forse una delle opere concettuali più grandi, dice il testo è altrove. Ma io credo che no, il testo è altrove. E quella la sogno. Meglio. Perché penso che sia un momento veramente dove tutto quello che uno si è detto, però ce l'hai già, perché il testo è altrove, cioè non avendola ce l'hai perché è altrove, ma questo lo puoi dire a un comune mortale, non puoi esprimere, o come direbbe, o come direbbero un altro, fai la fotocopia da chi ce l'ha e metti la fascetta. Io avevo buttato questo, don't read, impossibile non leggere. Impossibile. Vedere. Caro lettore, non leggere. C'è tutta una storia che un'altra volta. Che... Grazie. Vi saluto, scusate, mi devo partire. Grazie. Grazie a voi. Grazie. Ciao, grazie. Grazie a voi. Arrivederci. Ci scriviamo e ti mando la registrazione. Sì. Okay. Ciao a lei. Il testo è altrove. Anche la fascetta. Anche la fascetta purtroppo, ma la troviamo. No, sarebbe un grande dono, ve lo dico subito. Casualmente, ce lo lascio, lo lascio vedere così. Io dico sempre, perché non ho mai trovato. Ero di là, di che si parla? Ero di là, non ho sentito. Di che... La fascetta. Di questa fascetta. La fascetta sul nuovo commento di Giorgio Manganelli, dove la fascetta dice il testo è altrove. C'è un testo di Grafton interamente dedicato alla storia della nota a piedi pagina. C'è uno scrittore che si chiama Daniel D. Schuller, che io ho conosciuto a un ricercabo, ricercabo, quel rassegna festival che fa Renato Barilli a Bologna ogni anno, e che ha fatto un testo che poi è stato pubblicato da Baldini e Castoldi 2 o 3 anni fa, in cui il testo è una pagina sostanzialmente e le note occupano praticamente la gran parte del libro. Il libro è alto così, per cui è un libro in realtà di note, dove le note sono delle note più assurde, cioè la nota è un armadio e l'armadio in nota gli ha spiegato tutto quello che contiene, ed è un libro. Barbara Bloom ha fatto invece una copertina che tu metti in tutti i libri che leggi, ecco, è sempre la stessa copertina, sempre lo stesso libro. Non me lo ricordo perché non l'ho mai trovato, la sua descrizione, però è una copertina che tu ogni volta devi mettere nel libro e tutti i libri devono ogni volta, chi ti vede leggi sempre lo stesso libro, non cambi mai, è sempre lo stesso. Ma si può fare anche con la fascetta questa. Facciamo la fotocopia anche qua. No. Una fascetta che ogni volta che leggi un libro lo devi leggere con la fascetta, scomodissimo, perché se no via. Ci devo confessare un crimine, allora, quando c'era ancora Silvestre Bonnar, l'editore strepitoso, meraviglioso, che poi ha pubblicato tutti i libri sulla bibliofilia, bibliomania anche, pubblicato a un certo punto, ora forse proprio di Giorgio, aiutami, Maffei. Sì. Mi pare fosse lui il catalogo delle opere di Munari. Sì. È di Maffei. Sì, ci abbiamo lavorato. Ecco, lui deve essere stata parte del discorso. E questo arrivò al pacco in libreria, la prova in libreria, arrivò al pacco con tutti i libri di Silvestre Bonanno, c'era uno scaffaletto, tutto dedicato a lui ovviamente, e arrivò a sto libro che era, come ve lo descrivo, era così. Cioè sostanzialmente all'esterno tu non potevi sfogliarlo perché c'avevi la copertina, la colla e le legature. Quindi era un libro impossibile, probabilmente gli è uscita soltanto quella copia così. E tu l'hai presa. Io l'avrei voluta prendere, però non c'avevo i soldi neanche per comprarmi quelli buoni, quello così, e quindi l'abbiamo restituito. Questo che descrivi tu, cioè così, poi ne dico altre, è Enciclopedia di Maurizio Nannucci. Ecco, perfetto. Enciclopedia di Maurizio Nannucci è un libro che ha due coste, esatto, e in realtà c'è scritto Enciclopedia Universale, cioè tutto, ma non lo puoi in nessun modo è chiuso, per cui in realtà sì, perché lui si rifà alla descrizione di Dio di Dante Alighieri, che dice che è internato in un volume tutto quello che per il mondo sull'universo si squaderna, è internato in tre in un volume, per cui Dio sarebbe tutto il cosmo, che se ne facessimo così poi si squaderna nel cosmo. E lui allora ha detto, se tutto è internato in un volume è internato tutto quello che per il mondo si squaderna, io lo metto in volume, perché Dante vede invece tutto, forme, accidenti e momenti, per cui nel volume di Dio c'è anche questo momento qui. Certo. Non ci siamo solo le nostre idee, ma anche questo è secondo qua. Esatto. È la biblioteca di Babele. Per cui lui usa addirittura termini tipografici, perché dice si interna quello che nel mondo si squaderna, per cui sono i quaderni. Del volume del libro, in questo senso. E da lì lui ha fatto Enciclopedia. È un continuo, c'è anche questo sull'oggetto libro. Adesso io ho incontrato in Spagna un autore per catalano che fa libri di questo genere qui. Uno di questi è Enciclopedia Ermetica, se non sbaglio, e non lo puoi aprire perché è ermetica. Ermetica. E quindi, vabbè, questa è una delle cose. Il non libro comunque appartiene a un libro Il libro dimenticato, la memoria di Agnetti. Quello di Piero Mazzoni con le pagine trasparenti. Esatto. Lo usi. E il libro di Munari con i fogli di carta velina. Di là c'è un contenitore con aria semica. Contenitore? Di aria semica. Io ho messo un contenitore di aria semica nella plastica. No, sulla normalizzazione, poi forse interrompiamo perché stiamo dilagando in tutti i campi, ma penso positivamente. Sulla normalizzazione due cose mi vengono in mente. Allora, una è quello che diceva Fabio, l'osservazione della scrittura asemica come qualche cosa, a volte la scrittura asemica come qualche cosa di inquadrato in maniera quasi rigida calligrafica, come appunto un artista che fa la calligrafia, che fa la semica, la semic, e c'è questo muralista statunitense, si chiama Rettner, che sicuramente avrete visto se adesso non ho portato niente con me, che fa queste scritture che sembrerebbero veramente delle bande verticali e invece delle linee sottili diagonali classiche della scrittura gotica, soltanto che lo fa con dei caratteri che non esistono. Quindi crea questi murales enormi, tra l'altro lui è uno di quelli anche quotati, ha fatto mostre un po' dappertutto ed è un artista ormai di quelli straffermati, ma sempre ha veramente un'impressione di quasi di ansia, di angoscia, questa sua collezione di castelli, perché poi li fa in dimensioni molto grandi. Qualche anno dopo la grande esplosione di Rettner, quest'altro artista statunitense, Jay Snodgrass, ha iniziato a fare le stesse cose che noi abbiamo avuto in mostra, non solo in mostra a Concreta, sia nella vetrina di via del Consolato, sia all'Aquila, che all'Aquila, e fa lo stesso tipo di discorso, ma facendo esplodere completamente sulla pagina, quindi cercando di non ricomporre all'interno di una forma tipograficamente legale, potremmo dire, il discorso semantico, ma proprio facendolo esplodere, però con quei caratteri lì. Quindi sembra una scrittura semigotica con queste strane grafie che si alternano, ma esplosa nello spazio. Altra cosa che io credo sia importante promuovere è la, per esempio, adesso ritornando alla scrittura lineare, la non ricomposizione della forma breve, intesa come prosa breve, all'interno del discorso del romanzo. Il romanzo, come dice Franco Moretti alla fine del suo volume sull'Opera Mondo, è il grande predatore della contemporaneità, della modernità. Tutto quanto nasce per finire in un romanzo, il romanzo dove compare, nelle culture in cui compare, divora le altre forme scritte, la fiaba, la favola, l'aforisma, divora tutto, perché si mangia tutto quanto, lo fa materia propria e diventa, no, il vero luogo della narrazione. Andiamo nelle librerie attualmente, diciamo, la forma è la forma romanzo. Quello che io sostengo invece da anni è che esistono delle forme che nascono e vivono e continuano ad esistere per rimanere quello che sono, cioè forme brevi, come direbbe André Jol, ma comunque racconto breve, prosa poetico, prosa in prosa, poesia, non a caso la poesia soffre perché appunto c'è anche questa damnazio sulla brevitas e niente, quindi il mio è un appello alla resistenza. Quello che è caduto nel cinema con il lungometraggio, per esempio. Tant'è che nel momento in cui effettivamente scatta qualcosa nel meccanismo e c'è una via di fuga che non è una via di fuga ma un albero di vie di fuga dalla distribuzione, e quindi nasce internet, rinasce in rete la forma breve, anche virgolette o no, cinematografica, quindi è pieno di cortometraggi in rete, è pieno, ci sono autori indipendenti che con pochi soldi si producono i loro film di 20 minuti, di 15 minuti. Se ci sono anche domande da interventi, obiezioni e cassazioni. Quindi sei molto tirato per le orecchie da tante cose che stai detto, per cui non posso resistere, perché tra l'altro anche alcune cose che stai detto proprio adesso, in realtà poi alla fine due o tre di queste cose si uniscono, perché per esempio io da 20 anni di più lavoro con la forma breve del video, che come posso dire mi va benissimo, e sono arrivato a un certo momento, io sono un artista, insomma, poi arrivato nel 2005, e tra l'altro in un modo molto strano, cioè io ho scoperto il lavoro di Ketty La Rocca alla Biennale del 78, c'era la retrospettiva fatta dopo la morte, 78-76, non mi ricordo, comunque insomma quella lì, dove c'erano appunto le sue opere in cui c'è una fotografia, poi c'è la fotografia, contorni alla sua fotografia, sono le riduzioni. E quella è una cosa che mi ha colpito molto. E poi ovviamente Nannucci, perché quelle sono biennali in cui si è visto Nannucci, si è visto più cose, anche Pomli, poi Pomli, diciamo, che ha avuto varie epoche in cui è stato considerato un pittore, qualcuno che aveva un segno, poi no, quindi, a seconda di cosa andava di moda, di come era il mercato dell'arte, quando è venuto la Casa all'avanguardia, improvvisamente è diventato un pittore e basta, no? In realtà era uno che lavorava anche molto vicino a certe cose, anche essendo americano, anche nella musica degli anni 50 americana, no? Intendo quella asematica, se vogliamo. E poi è successo una cosa molto strana, cioè io negli anni 80 ho lavorato anche con il segno, ma senza la scrittura, e dal 2005 a un certo punto, pur continuando a lavorare sostanzialmente con l'immagine in movimento e con la fotografia, ho cominciato a lavorare, ho cominciato a fondere una cosa che io ho fatto da tempo, insomma, un sacco di tempo, cioè di avere, di annotare i miei quaderni, in realtà avrebbero dovuto essere dei quaderni di schizzi, però sono sempre più diventati dei quaderni di annotazioni, dove fasi dei libri che leggevo. Quindi io mi estraevo dai libri che leggevo le parti che mi servivano, quindi avrei potuto anche non avere più quei libri. A un certo punto, senza ragionarci più di tanto, no, ho cominciato a mettere questi pezzi di testi presi dai passi dei libri dentro i segni appunto asemantici, se vogliamo, no? Perché poi voglio dire, però non lo posso fare apparire così, non ancora, tra qualche decennio ovviamente si potrà, però insomma sono segni nero su bianco, no? E dentro questi segni ho cominciato a mettere proprio strisce di testo, no? Che di solito si nascondono, si fondono, si intrecciano. Quindi in realtà poi è capitato anche che ho rincontrato Mario Diacono, per caso. Mario Diacono, ovviamente voi sapete che oltre ad essere stato un gallerista, un critico, eccetera, è stato anche un, diciamo, poeta visivo, insomma. Poi lui era stato molto vicino a Nino Villa, voi sapete meglio di me. E poi Pignotti, lui è una cosa molto strana, cioè non venivo assolutamente da quella direzione lì, però poi anche io amo moltissimo Perec, anche se essendo io uno molto, molto scarsissimo in cose esatte, per cui non avrei mai potuto fare con Kant di Perec, quel cotè di Perec non avrei mai potuto, però l'aspetto invece di memoria, quello lì è molto più vicino, molto più facile per me, diciamo. E quindi insomma una cosa che mi avete fatto pensare che in realtà poi alla fine, e poi c'è questa cosa di opposizione che insomma diversi di voi hanno tirato fuori, no? Cioè nel momento in cui qualcuno potrebbe dire, no? Sicuramente sono cose che poi forse avete anche detto da ieri e oggi, no? Cioè uno dice ma come ancora queste cose, diciamo, di posti di avanguardia della scrittura, no? Visiva, della scrittura semantica, eccetera, eccetera, c'è ancora. Che viceversa poi sono anche cose che, per cui c'è molta, di nuovo molto interesse, no? Anche tra persone che magari sono, non so, 20 anni, 30 anni, 25 anni, che scoprono adesso cose degli anni 70, 60, Pignotti, eccetera. No? E, è vero che c'è una sorta di resistenza, cioè resistenza inteso, ovviamente è molto facile dire resistenza, però bisogna cercare anche di capire cosa vuol dire, cioè di proprio di rallentare, no, il passo di fronte al fatto che nonostante, cioè una cosa molto interessante del web, e tra l'altro di cui parla Lorenzo Fogranzi nella Movimentazione Totale, è che c'è stato un ritorno incredibile del testo, no? Della testualità, tutti scriviamo in continuazione, no? WhatsApp, eccetera, eccetera. Però una cosa che per esempio io ho osservato insegnando storia dell'arte contemporanea in tutti i 3 anni, degli studenti di 20 anni, 19 anni, c'è un problema, cioè ovviamente ci sono eccezioni, ma la media delle persone con cui, cioè qualche centinaio di persone con cui ho avuto a che fare, hanno un'enorme difficoltà a capire i linguaggi non, qua devo essere più preciso col termine, non iconici, cioè non figurativi, ma non rappresentativi, cioè non fotofilmografici. Cioè appena io gli propongo il cubismo, cioè come insegnante, peggio ancora Kandinsky, peggio ancora la diciamo semplificazione e la riduzione di Mondrian, no? Che va fino ai più e meno. Poi dopo fare quell'altra roba lì, io dico più o meno. Peggio ancora, Krucionik, Klebnikov e Malevich. Lì proprio X un Cleones, nel senso che interessantissimo, c'è una sorta di sufficienza, cioè di sospetto, sufficienza, risatina, come 100 anni prima, davanti a questa roba che insomma, cioè, ma che è sta roba, no? Ma dai, su, no? Ma che arte questo, no? Cioè, perché, ma in realtà quello deriva non da un gusto, diciamo, da una mentalità borghese di 110, 15 anni, 20 anni fa, che dice no, ma questa non è arte, no? È proprio invece nasce da tutto, è talmente, deve essere talmente immediato, perché passa attraverso il mezzo, diciamo, l'aspetto fotografico di questa roba qui, per cui iconico in quel senso lì, no? La sedia è una sedia, no? Già dire una sedia già aiuta questo, no? E quindi questo è molto interessante, cioè io porto la mia esperienza personale, perché io in realtà sono arrivato a fare delle cose, io stavo guardando appunto proprio l'enciclopedia, estremissimamente, cioè anche delle cose che non sono lontanissime, anche se io ci metto dentro anche il testo leggibile, nel senso che mi interessa molto questa dimensione della leggibilità, non leggibilità. Io poi ho lavorato moltissimo nella traduzione culturale, nella traduzione proprio, nel senso non è che faccio il traduttore, però ho lavorato molto con il fatto di passare da una lingua all'altra, soprattutto dall'inglese italiano e dall'inglese. E tutto questo in realtà c'entra molto, per esempio il passaggio da una lingua a un'altra, anche quello è una cosa che resiste alla traducibilità assoluta, cioè non esiste, voi sapete benissimo, non esiste la traducibilità assoluta, non si può tradurre assolutamente una lingua in un'altra, ci sono delle cose che si possono dire solo in una lingua, ci sono delle cose che si possono dire solo in un'altra, e poi ci sono tutti i compromessi. Tra l'altro Leopardi, io con una mia amica attrice con cui abbiamo fatto un lavoro su, a proposito di aforisma dentro il romanzo, due lavori su Clarice Lispector, due lavori video, e volevamo fare una cosa sull'infinito, perché voi sapete, penso, che dell'infinito di Leopardi ci sono diverse traduzioni in inglese. Leopardi è molto poco conosciuto nel mondo anglosassone, cioè niente a che vedere con Pasolini o con Calvino o con Dante, naturalmente, no? Cioè Dante è quasi patrimonio degli angloamericani, no? Da cent'anni, quasi 200 anni ormai, insomma. Invece, viceversa, Leopardi è un, in generale uno parla con qualcuno che colto, insomma, che legge, che è un artista, uno scrittore, o comunque di solito Leopardi è molto meno conosciuto, no? E io ho cercato 2, 3, 4 traduzioni all'infinito, le tre, insomma, quelle più o meno che sono pubblicate negli ultimi decenni, ed è molto interessante perché non c'è una sola di quelle traduzioni che traduce per intero il testo, nel senso che, per esempio, Naufragare dolce in questo mare, si fanno dei compromessi, oppure altri punti assolutamente salienti di quel testo. Per cui, per esempio, io, a un certo punto, per darla ad amici anglofoni, ho fatto la mia versione collazionando quelle quattro versioni, no? Per ognuna prendendo la parte. E infatti abbiamo deciso che faremo un lavoro sull'infinito. Che non sarà un lavoro, diciamo, di immagini, cioè di scrittura o di scrittura segno, ma sarà probabilmente un lavoro di immagine e movimento. E volevo solo, appunto, ci devo dire questo, tutte queste cose in realtà non è un caso che poi anche voi tendete a parlare di queste cose che in realtà vengono da punti diversi, no? E per chiudere, perché ci ho parlato dopo, come dire, non lo so, anche questa cosa del canto, cioè il caso vuole, Alberto lo sa perché ci ha invitato, io ho fatto una band un anno fa e uno dei nostri pezzi è un pezzo cantato senza parole, completamente senza parole, cioè però non è la solita cosa, il solito vocalizzo, scherzo, niente di tutto ciò. E questo tra l'altro è una cosa che mi interessa molto, perché? Proprio perché lavorando con la traduzione mi rendo conto fino a che punto, appunto questa cosa che dicevo, cioè è difficile, non esiste la traduzione, è un po' il discorso di Munari, no? Quella cosa lì, cioè non c'è la traduzione che appunto capovolge il foglio e ce l'hai la soluzione, non esiste, no? E quindi anche lì quella è un'altra cosa che mi sta interessando sempre di più, cioè l'idea di scavalcare, di oltrepassare completamente il fatto di avere la canzone che ha le parole. Si può continuare a fare, però si può anche fare qualche cosa che magari non è neanche Crucionic, no? Non è neanche Dear Bullshit o il Zimbra messo in musica di Tony Herbert nel 79, no? Ma addirittura qualche cosa che non c'ha neanche le sillabe, oppure c'ha le sillabe. Quindi vi ringrazio perché è come se mi aveste un po' fatto rendere conto che tutte queste cose in realtà sono la stessa cosa. Grazie. Io credo di aggiungere una cosa che mi viene in mente sulla velocità, cioè in realtà sulla lentezza, nel senso che io personalmente la pratico la lentezza, nel senso a livello asemantico. Purtroppo non ci sia niente di male, nel senso ovviamente quando si tratta della, proprio della calligrafia, nel senso della scrittura, ovviamente lì sì, siamo su un aspetto veloce, nel senso che effettivamente quando mi trovo a praticare quel tipo di approccio c'è la velocità, però poi a me personalmente interessa anche l'aspetto più lento, più compositivo, che non vuol dire però che io credo rientri comunque sempre nel discorso di diseducazione, di critica e di decomposizione dei linguaggi dominanti. Però è quello che la lancia fuori della lentezza, perché comunque la pratico, quindi sono lento. Io per esempio quell'opera che appunto è un'esposizione sia concreta sia l'Aquila, fatta di lettere cubi che si combinano in un pannello molto grande, insomma, penso che quello sia frutto di un'elaborazione abbastanza lenta. Sì, no, no. Cioè, non lo fai, quello ripreso, un esempio che mi viene in mente. Una domanda ce l'avrei anch'io, Marco, per quanto la spontaneità entri in tutto questo, e qual è il limite della spontaneità, se esiste, se c'è un approccio, cosa vuol dire questo? Non so come risponderebbero loro. Io non pratico. Berto. Però ho parlato della semic come un avvicinamento al corpo in quanto mette in primo piano la scrittura come gesto. In questo senso. Infatti il corpo secondo me ed è una. Sì, ed è una risposta alla non corrispondenza tra segno e tra significato e significante. Cioè, allora inventa andando verso l'istinto e quindi verso il. Cioè lasciarsi andare comunque verso una cosa. Allora, per quanto mi riguarda sì, poi non vorrei dare una regoletta, però secondo me nella mia esperienza c'è e credo anche nelle altre, perché è un proprio abbandonare la responsabilità, quella grossa del significato, cioè del senso logico. Cioè il controllo, cioè il problema è il controllo e gestire il controllo, secondo me. Cioè anche, no? Fare semi che è un po' abbandonare il controllo. Sì, però poi ci sta la semi, ci stanno tante, no? Tante forme, certo. Ci sta il copri, cioè ad esempio nei lavori di Marco ci sta il rispetto del bordo, della impaginazione a volte, oppure dei riferimenti, no? Come dicevamo, elenchi mappe, cose, e quindi costellazioni, no? Che vengono spontanee, però c'è anche una parte di controllo. Sì, cioè, è un non così tanto come quando uno scrive. Assolutamente, secondo però, me. Diciamo che è un tema questo, no? A me per esempio. Come in una danza, non so, la danza contemporanea, l'improvvisazione, no? Sì, oppure sì. Nella musica jazz dove ci sta l'improvvisazione, allora lì magari c'hai anche un tema di fondo e però lo lasci andare, no? E io credo che ci sia veramente una grande connessione con questo. Sì, ma infatti sempre prima parlavo della connessione con l'improvvisazione, fare asemic è un po' è fare improvvisazione. È essere nel momento presente. È una spontaneità elaborata. Questo poi appunto ha a che vedere anche con la concentrazione comunque, perché non so, se uno per entrare in quel mood, in quello stato, devi stare comunque, cioè devi avere una, certo, non devi essere distratto, voglio dire, no? Oppure anche se c'è una certa, sembra una certa svariatezza, ma non c'è poi di fatto, cioè c'è una grossa presenza ma in un altro. C'è un aneddoto che mi ha sempre colpito, bellissima, di Visconti. A un certo punto intervistano l'attore non professionista utilizzato, gli chiedono: ma il maestro che indicazione ti dava? il maestro mi dava sempre la stessa indicazione: essi te. Immaginare che Visconti dicesse così, essi te, però rientra in questa spontaneità. Io direi che è questo in un sistema come questo. Ecco, immaginare che lui dicesse essi te, però ecco, questa sintesi è un bel aiuto per l'autocoscienza. Per cui questa spontaneità anche del film è bellissima, in realtà dietro c'era Visconti, certo, chiaramente. Comunque, secondo me c'è sempre comunque una costruzione che non possiamo non portarci dietro, e mi riflettevo al discorso che faceva giustamente Andrea, che è poi quello che a me capita spessissimo di ripetere quando si parla di scritture contemporanee, di poesia lineare, poesia di ricerca, scritture di ricerca, cioè essendo negli anni, nel tempo, circondati da un certo tipo di segni, messaggi, sculture anche ovviamente, che sono insomma i segni della letteratura, dell'arte contemporanea, eccetera, eccetera, dopo un po' non si può non capire una serie di cose, non si può non entrare in sintonia con anche un testo, anche la prima volta che lo affrontiamo. Come succede quando uno sta all'estero, sta a un bar, mangia il suo cornetto, beve il suo caffè e sente improvvisamente in un contesto di francofoni o anglofoni qualcuno che dice una frase in italiano. Può essere lontano quanto ti pare nel bar, ma non puoi non capirlo. Addirittura il tuo livello inconscio è già sintonizzato prima ancora che tu ti renda conto di esattamente cosa capisci, che quella è la frequenza giusta, quelle cose sono state dette. Cioè, la stessa cosa secondo me succede non soltanto nella nostra percezione del nuovo in arte, letteratura, musica, eccetera, quando si ha un inconscio che gioco forza, ma non perché siamo stati soltanto compressi e violentati, ma anche proprio perché semplicemente abbiamo vissuto e attraversato un tot di anni in cui siamo stati bombardati da un certo tipo di segnali, non possiamo non entrare in sintonia con alcune cose. E nello stesso tempo, questo come lettori o come fruitori, come espressori, come artisti, come autori, non possiamo non sentire la nostra mano quando sta facendo qualcosa che ci mette fuori di un'organizzazione o disorganizzazione organizzata che noi sentiamo essere pertinente a tutta la nostra vita. È come se ci fosse un grado di impertinenza oltre la quale ci rendiamo conto che sbagliamo nei confronti di noi stessi e nei confronti della nostra identità in quanto sintonica con quello che siamo. In questo senso qui c'è anche il portato di tutte le nostre sintonie, anche di sintonie, anche di fastidi nei confronti dell'arte che abbiamo attraversato, per cui non permettiamo la nostra mano, se non per motivi di parodia, di ironia, di scherzo, di rifare, non so, Brian Geising o non so chi altro. C'è proprio una deviazione laterale che corrisponde di più alla nostra identità. Questo sia nella velocità sia nella lentezza invece della possibilità di calibrare il segno in modo che... In qualche modo si riconnette al discorso della traduzione. C'era un dialogo famoso tra Emilius Castoriadis e Pellicer, e ricordo, cioè, il fatto stesso che uno riconosca un testo come traducibile è già una possibilità, certo. No? Anche se la traduzione viene male, riconoscere la traducibilità fa sì che tu ti accorgi dell'alterità. E si riconnette al dono di Babele, se uno ci pensa nella Bibbia, le righe su Babele sono pochissime. In realtà quello che tutti quanti pensano è che, quello che ci riportano, è il fatto che Dio, per effetto di questo ipotetico innalzamento della torre oltre ogni limite, punisce la superbia dell'uomo. In realtà il racconto è diverso, c'è un commento di Midrash sulla vicenda molto interessante, perché in realtà che accade? Che lavorano in assoluta concordia, anzi non smettono di lavorare nonostante qualcuno muoia. C'è un'organizzazione così perfetta che il lavoro che viene compiuto è una macchina perfetta a cui concorrono bambini, uomini, adulti, maschi, femmine. E quando qualcuno muore, la storia va avanti, perché c'è altro mattone, ognuno col proprio nome. Ecco, quello che punisce Dio è proprio l'indifferenza, l'automatismo della comprensione. E il dono di Dio è le lingue diverse per rendere possibile la traduzione come attenzione all'altro, quindi la ricostruzione dell'alterità. Allora, liberarsi del senso ti permette anche poi di cogliere dove c'è proprio un atto di libertà. Paradossalmente è un liberarsi del, del dogma quasi, nel senso del, dell'automatismo, anche la concordia rispetto a un, al dogma che probabilmente non è neanche concordia, questo, cioè, non è neanche concordia perché è tutto dogma automatico, indifferenza all'accadimento, quindi il non pesare quello che succede. Giustissimo, infatti non c'è mai esperienza più Hamlet, non indiana, ma scende un diverso di quella di quando noi per esempio ci troviamo con persone di cui non capiamo assolutamente la lingua, non capiscono noi, e quella in realtà, come giustamente dici, in realtà lì sei molto più attento, cioè è lì che nasce l'attenzione all'altro, nel senso che allora cerco di aiutarti a capire. Certo, allora, certo. Non capisco. L'ascoltano, hai nasce anche il gesto, no? Di nuovo, perché per farti capire, certo, lo fai a gesti. Sì, sì, ma a volte certo, prendi anche i gesti, perché poi i gesti, no? E la spontaneità. L'ascolto come comprensione, hai idea che diceva, cioè, quando tu non hai sentito, dici come non ho capito, ecco. Cioè, quel non capito. Comunque riguarda tutto sul piano protomentale. Prese, ma cioè quello che. Ma vogliamo sentire un breve testo? Vediamo se non vi siete incuriositi di sapere chi è? Sì, certo, infatti lo stavo cercando qui, però sì, lo sentiamo invece sì, direttamente da là. Aspetta. But sitting and aiming interminated spaces beyond that, and superhuman five silence, and very quiet in my mind I pretend, where for a while the heart does not go away. And like the wind odo stormy between these plants, l'infinito tradotto da Google Translate, and I'm sovereign to the eternal, and the death seasons, and the present and alive, and the sound of her. So between this my mind is drowned by immensity, and the shipwreck is sweet to me in the sea. Non potevo non riconoscerlo, perché la flessione di Google Translate è lei, e poi qualche parolina. Grazie a tutti. Non l'ho vista. C'è uno scrittore che scrive, devo sapere una cosa, no, cos'è il permanente, cos'è un libro, cos'è senza un'analisi, spazio e tempo, eccetera, cioè, chi scrive un libro non scrive un libro ma scrive un testo, eccetera, eccetera. E, sì. Carrion. Carrion, sì, è un messicano che però è vissuto in Europa, a Amsterdam, e sta in rete comunque questo testo. Benissimo. Dai, è bellissimo! È molto interessante che è stato questo va nella cartella. Ritirato sì, fuori sì, alla comunità di quest'anno. Sembrerebbe anche dedicato, però di niente. Grazie comunque. Questo me lo cerco in lo scrivo. Certo, io ricordo con la data di oggi. Facciamo uno scambio. No, è questa parte. Grazie. Sì, qualcuno può, perché fa? Thank you.